Luciano, posso farti una domanda? Mi piacerebbe che tu facessi una trasmissione una sera, una puntata, su qualcos'altro che la politica. Parliamo di... Parenzo, un'idea di estetica, di cosa, ma anche di figa, non so io. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Hanno fatto proprio tutti i sottosegretari, cioè se ci presentavamo io e te, se passavamo di lì, capace pure che facevano noi i sottosegretari, non è scusa. Non manca nessuno, indubbiamente, da Micichè non manca nessuno. Beh, Micichè ce lo ricordiamo per tantissime cose, il caro amico Micichè. Di recente ce lo ricordiamo, lo scorso settembre, per avere detto nominerei l'aeroporto Falcone Borsellino Archimede, perché Falcone Borsellino, quando uno atterra a Palermo, è una brutta immagine. È una brutta immagine, bravo. La lotta alla mafia l'abbiamo fatta noi siciliani. Io sono orgoglioso del fatto che la mafia dal punto di vista militare sia stata in qualche maniera battuta dai siciliani. Ecco, io l'aeroporto di Palermo lo intitolerei ad Archimede, lo intitolerei ad altre figure della scienza, ad altre figure positive. Figure positive, mitico Micichè. Beh, c'è anche la Borletti Buitoni, la quale è incazzatissima, la nostra amica Borletti Buitoni. Senti Parenzo, se dobbiamo iniziare così, con il bordello dietro di te che non si capisce una fava, allora me lo dici subito, no, me lo dici subito, se bisogna iniziare così, con il bordello dietro di te che non si capisce una sega, me lo dici subito, così ci mettiamo l'anima in pace, eh? Ma è il paese reale, il ma quale paese reale? Il tuo paese, quale pensatoio? Quale pensatoio? Il paese reale, ma smettila! Esci da là e cerca di lavorare bene! Tutti al ministero! Borletti Buitoni, denuncio chi dice che ho comprato la poltrona. Che se qualcuno pensa che in Italia si possa comprare una poltrona da ministro, probabilmente riceverà anche presto una lettera di un avvocato, perché è un'accusa molto infamante, non solo per chi la compra ma anche per chi in teoria la venderebbe. La Borletti Buitoni, che la ricordiamo anche per una meravigliosa meravigliosa parodia di Crozza, Crozza si incazza, per chi non l'avesse capito, perché ha versato 700.000 euro a Scelta Civica quando si è candidata. Dunque molti hanno detto: adesso questi soldi versati a Scelta Civica e la nomina a sottosegretario, viceministro, quel diavolo che è una sorta di risarcimento. Di risarcimento, certo. Per per i soldi versati. Cioè, come dicono che si fosse comprato un posto in paradiso, questo è il sottotesto di sta roba, quello che dicono questi. Posto in paradiso? Bah. No, appunto, con un ruolo al governo, si è assicurato, sì. Quelli che sostengono questo è come, sì, se dicessero che si è assicurato un posto in paradiso, cioè al governo. Bah, potevi trovare una cosa più originale, eh. Comunque, Crozza. No, lei l'aria abbastanza. Borletti Buitoni, che insieme a Lidia Rotavender vanno storte così. E poi c'è Paolo, Vitelli, che è il re degli yacht. Adesso arriviamo al clou, che è la Biancofiore, sottosegretario alle pari opportunità. Prima però il nostro mitico, io sono contento per lui ovviamente, bisogna vedere come si riesce a conciliare il sottosegretario o viceministro dei trasporti e il sindaco, credo che ci si debba dimettere se non sbaglio, il sindaco di Salerno. Decadere automaticamente. Vabbè, no? Ma se non lo sai, stai zitto. De Luca, no, lo so. De Luca, sottosegretario ai trasporti e le moto, senti questa roba qui, è stupenda. I cafoni che vanno a mettere la moto parcheggiata nella rotatoria della piastra Nizza davanti al bar abbiano la decenza di spostarsi di 20 metri. Dove la metto la moto? E te la porti a casa, imbecille. La vai a mettere nel parcheggio 20 metri più avanti, anziché bloccare il traffico di via Eugenio Catenini. Ovviamente c'è la Biancofiore, che viene accusata di omofobia. Ascoltate bene queste parole, alla Zanzara, ospite più volte da Biancofiore, anche in compagnia del suo cane Puggy, Peggy o Puggy, come cazzo si chiama, non me lo Peggy. Ricordo mai, Peggy, che canta meno male che Silvio c'è ed altri ritornelli del genere, la Biancofiore dice, per esempio, oltre a essere contraria ai matrimoni gay, i ragazzini adottati dai gay saranno devastati, devastati, sentite. Sarà guardato in maniera strana ed è così, punto. A parte che insomma, non vi rendete conto dei fenomeni di bullismo, insomma, non vi ricordate, ma certo, ma ci saranno un sacco di problemi, questi ragazzini saranno devastati psicologicamente. Io facciamo una società di devastati, un po' per i divorzi, un po' ovviamente per... Le clamorose dichiarazioni di Erminio Boso, ex senatore ed europarlamentare della Lega Nord, qui alla Zanzara contro il ministro Kyenge. Ascoltate bene, perché Boso è vero che è fuori dalla politica da diversi anni, ma dice: io sono ancora tesserato con la Lega Nord, sono ancora tesserato, cioè un membro della Lega Nord. Che dovrebbe fare la Lega di fronte a queste affermazioni, cari ascoltatori della Zanzara? C'è anche un ospite che è molto sensibile a questo argomento, fra poco lo chiamiamo in causa. Boso, Boso, sono razzista. A casa mia è un razzista, a casa mia. Ma io sono razzista, non mica mai negato di essere razzista, stronzo. Vabbè, Erminio, non mica mai negato io. Cioè, tu non ti faresti curare perché di colore, cioè ti dà fastidio il fatto... No, perché ha un estraneo a casa mia, io dagli estranei non mi faccio curare. Ma... Torni in Congo. Il fatto che è di colore per te è un problema? No, basta che resti a casa sua. A casa sua dove? In Congo, sì signore. Ma no. A casa sua. Ma perché devo fare il medico? Per nessun motivo. Ma fai il medico questa qua, è medico, è un medico. Non me ne frega niente di cosa che fa. Ma tu li stai tornando e stai dicendo... Essendo che il Congo ha bisogno di medici, ritorno in Congo a fare il medico. È così, siamo messi così, siamo messi così. Infine, la vicenda Becchi, la vicenda Becchi. Caro Becchi, prima dici che sei caduto in una trappola, sei caduto in una trappola. Poi diceva che non doveva andare più in nessuna trasmissione, oggi era presente ovunque. Sono caduti in una trappola. Grillo ha fatto benissimo quella manifestazione che era stata indetta, no, nel periodo dopo le elezioni, dopo la rielezione di Napolitano, a non andare in quella manifestazione. Perché sarebbe stato sicuramente un modo per cadere in quella trappola in cui sono caduto io, perché io sono caduto, sì, caduto in una trappola, chiaramente con quella espressione. Poi a un certo punto, durante Mattino 5, dice: tolgo la parola, l'espressione sto scherzando, il popolo ha diritto a resistere. Dunque mette il carico da 90, sentite Becchi. Se nella mia espressione, diciamo la Zanzara, ho detto sto scherzando perché si trattava di una cosa così ironica, eccetera, direi che adesso scriverei la stessa cosa togliendo sto scherzando. Quindi semmai, più che ritrattare, non solo riconfermo, ma lo dico ancora più esplicitamente, che se le cose continuano in questi... C'è la Mussolini che le vuole rispondere. No, io sto dicendo semplicemente, sì, che se le cose continuano in questo modo nel nostro paese, non si possono escludere azioni di violenza perché il popolo ha diritto ma a resistere. Questo Mussolini, Becchi, questo sta dicendo. Il diritto di resistenza. E siamo qui, 800-24-00-24, parte la Zanzara, siamo carichissimi. Oliviero, Oliviero. Certo. Certo che siete una trappola proprio. Siete due trappole, anzi. Le due trappole d'Italia siete voi due. Ma che trappole, ma dai. Siete trappole, sì. Attirate i topi, attirate i topi, quelle topi da fogna proprio, li attirate tutti. Ma scusa, ma la Lega che fa queste affermazioni? Ma poveretti, ma bisogna ridere. Cosa vuoi fare? Uno che dice così è... bisogna ridere. Cioè non bisogna chiamare la polizia a arrestarlo per razzismo. No, devi cose... proprio chiamare uno così, perché sai benissimo che ci sono... L'ambulanza, spero sbagli strada, insomma, spero che l'ambulanza non lo raccolga, perché è inutile raccogliere quella gente lì. Perché? No? Che gente? Dei subumani, insomma, no? Non... però non c'è solo così, non c'è solo umano, perché non vuole aver niente a che fare con l'umanità, quindi è un subumano, non appartiene alla razza umana. Di razza umana ce n'è una sola, diglielo quel signore lì. Due. Io lo vorrei dire al signor Bosso, ieri ce n'è due, se ce ne fosse due sono quelli lì che ragionano così, che non appartengono alla razza umana, appartengono alla subumanità. Però Oliviero, tu sai che non c'è solo Bosso che è un estremo della Lega, c'è stato prima Borghezio, poi gli attacchi di Salvini per la questione dello Ius Soli, cioè della legge che vorrebbe proporre la Kyenge, cioè c'è stato tutto un ribollire contro questo ministro di colore della Lega, da parte della Lega. Sì, perché quando si guardano allo specchio sono gelosi, insomma. Cioè in che senso? Anche Berlusconi ha detto era bello e abbronzato. Dio parla, no? Ma guarda Borghezio, questi qui, ma poverini. Cioè, poverini, io non sono razzista, ma se lo fossi metterei loro nei primi della lista. Cioè tu stai dicendo che si guardano allo specchio e si fanno schifo? Ma schifo! Cioè tu, quando tu guardi Borghezio ti fa schifo? Ma no, ma di povero più. Borghezio, ma sai, è come parlare con un subumano, non puoi neanche criticare una persona così, scusate. Cioè è inutile, tu dici, è inutile. Volete divertirvi, fategli dire ste cazzate a questi subumani. Però scusami Oliviero, perché oggi Maroni ha detto prendo distanze dalla parola di Borghezio, però poi sull'espulsione vedremo, eccetera eccetera. Tu dici che perché non si prende una posizione dura? Ma che dura? Lega dura, cioè, la Lega diceva che ce l'aveva duro, sì, ma insomma la Lega, ma la Lega è ridicolo, ho detto, non è un partito, una diarrea, Dio santo, e allora andiamo a parlare con la diarrea. Cioè tu dici che questa qua è la parte finale della diarrea, queste ma frasi. Ma appunto, sono a diarrea, sono diarrea. Ma l'hanno, però scusami Oliviero, chi ha scritto sulla scheda per l'Europa Borghezio, eletto con voto di preferenza, tra l'altro uno tra i più votati, che è diarrea anche quello lì, chiamato Borghezio. Ma l'Italia è pieno di specili, quelle che dicono 1-10-100 Nasiria, 1-10-100 prete, 1-10... Devi dire un paio di teste di cazzo anche, ci sono teste di cazzo qua. Cioè, ma chi vota la Lega secondo te chi è? Testa di cazzo, cioè chi vota la Lega è una testa di cazzo secondo te? Ma no, ma non ho detto questo. Ci sono tante teste di cazzo che votano delle cose così. Beh, ho capito, ma allora secondo te chi vota la Lega? Votano anche partiti, tanti stessi. Vabbè, d'accordo, però dilla chiara, perché tu lo pensi. Chi vota Lega? Che cos'è? Un coglione, una testa di cazzo, un imbecille, un ignorante? Un subumano, ho detto, è un subumano. Cioè chi vota la Lega è un subumano. Un subumano, sì. Va bene, subumano. Ma che ne so, è quello che pensi te, mica è quello che penso io. Io non lo penso, per esempio. Non trovi subumano. Allora io ti dico, trovo. Oliviero, ti dico la verità. Io alla Regione Lombardia ho votato Maroni. Sì. Proprio c'hai Maroni pieni proprio. Beh no, ma il fatto che tu sia un subumano, questo non occorreva, questo appunto, elemento. Non volevo dirlo, ma infatti c'è una trappola. Eccoci, 800 24 00 24, Oliviero Toscani. Senti, subumano, non ti sarai offeso, ma riconosci, ma fai delle cazzate, dai. Ma no, no, no, ma io distingo. Mi arrabbio perché Maroni, ma non perché l'ho votato, non me ne frega niente, io voto. Chi è che è caduto? Toscani, chi è caduto? Recuperatemi Toscani, su. Io mi arrabbio perché subumano è buono, però no, perché è vero. Mi arrabbio perché Maroni, ma non perché l'ho votato, non prende una posizione netta su queste cose qui. Cioè, ci sarà qualche motivo elettorale, ma perché Borghezio porta voti, ma non parlando. Porta più voti, dai, su, non ma li porta più, dici? Li fa perdere. Ma dove vivi? Forse, ma forse nelle li valli fa perdere. Della Bergamasca e nelle valli piemontesi Borghezio spopola, quei voti li ha presi, qualcuno lo ha scritto quel nome, cioè che dici? Perché non ragioni? Perché? Prima di recuperare Toscani, Salvatore da Napoli, buonasera Salvatore. Salvatore, io sempre. Pronto? Allora Salvatore? Buonasera. Ho piacere di parlare con lei. Sì, però si svegli, su, veloce. Sì, sono un po' lento, sto guardando in televisione, in streaming, forse faccio meglio. No, ma lei fa meglio a parlare, perché faccio se non parla parlare, passiamo ad un altro. Ieri sera c'era un ascoltatore che voleva raccogliere un centesimo. Sì. Si ricorda? Sì. È in merito a quella telefonata per, mandarci via, sì, una colletta per mandarci via. Sì, allora... sì, perfettamente. Praticamente io penso che attualmente lei e Parenzo sì. State facendo di tutto per far per ragione a quel signore. Lei era un giornalista di Instagrande, si sta allineando con tutti. Allineando con chi? Con me stesso? Allineando con quelli che dicono che quello che ha sparato, quel tizio che ha sparato da... quel tizio che ha sparato, secondo me, è un tizio sfortunato come ce ne sono tanti, chi ha sparato nelle scuole, chi ha sparato... E lasciamo perdere la politica. Secondo me la politica lì non c'entra proprio un tubo. Quindi lei, tempo fa, diceva che era una trasmissione contro tendenze, non si era politicamente corretti. Vabbè. E mi piaceva in quel periodo. Vabbè, poi adesso non gli piace più. C'è una sola possibilità in questo caso. Sa che cosa si fa in questo caso? O a casa o in macchina, si pigia un altro bottone. Sì, lo so perfettamente. E si passa perfettamente. Qualcosa. Però, l'abbraccio fortissimo. Lo so, infatti io l'abbraccio come i cagnolini, adesso un po' esagerato, però io l'abbraccio fortissimo e ritorno ad Oliviero Toscani che mi ha dato del subumano. Oliviero, no, sei tu che hai detto che hai votato Maroni e ti dico scusa, ma sai, non è così grave un voto, non è che ti abbia fatto cambiare tu. No, ma senti, invece che però puoi sempre rimpiangere del fatto, una cosa sbagliata, insomma, c'è sempre tempo, sei giovane. Sì, posso recuperare. Mi piace, devi andare avanti, alla finale, anche lui è subumano, che siccome non gli piace, allora devi cambiare, devi essere licenziato perché non piace a lui, ma scusa. Vabbè, allora, che vuoi fare? Sicuramente non stai cercando il consenso, tu. Ma figurati se cerco il consenso. Scusami, Oliviero, ma Preiti che spara, che idea ti sei fatto? Ma sono fatto l'idea... che poveretto, ha sbagliato tutto, tutto ha sbagliato, è un disgraziato. Cioè ha sbagliato perché ha sparato al carabiniere? No, beh, a parte questo, che non è che già spara un carabiniere, qual è la ragione? Ha sbagliato tutto, poveretto, è sfortunato, è uno sfigato, è un disgraziato, di solito uno è un disgraziato, eccolo un disgraziato. Un disgraziato, vabbè, un disgraziato. No, ma ci sono, è inutile poi far passare le cose, perché hai ragione, indubbiamente tutti abbiamo un disagio su questo fatto qui, allora pigliamo subito un capro espiatorio che fa quello che noi pensiamo. Cioè, quello che vogliamo pensiamo chi? Noi pensiamo, abbiamo questo disagio, in fondo veramente sono inutili sti qua. Però scusa Oliviero, non è che tu pensi che quello dovrà sparare a qualcun altro, no? No, non deve sparare assolutamente nessuno, si spara una sega. Ma è roba da matti, ma che deve fare una cosa? Si spari una sega, questo non è male. Invece di sparare a qualcuno si faccia una sega. Si faccia una sega, ma che me non so io. Oppure si sparasse da solo, lui, invece di sparare... No, neanche quello. Allora, ci sono delle vedove di gente che si è suicidata. E noi non teniamo conto di questa gente che si è suicidata. E in fondo, i colpevoli è la società. Questi qua che si sono suicidati per senso di colpa, perché non possono pagare loro dipendenti. Ma non mi dire che Preiti si è sparato perché è colpa della società. Ma va, Preiti è un disgraziato. Non è che ha sbagliato mira, no? Ma avesse sparato ai vetri dell'automobile, non sarebbe stato meglio come immagine, non so, ma visto che doveva sparare. Ma non spari un cazzo, adesso avrebbe dovuto spararsi una sega. Senti, ma la Biancofiore sottosegretario, viceministro, quello che diavolo che è, sottosegretario o viceministro? A che cosa? Sottosegretario alle pari opportunità. No, sul serio? Sì, ti giuro. Sì, comunque, questa qui è il massimo. Perché dici? Alle pari opportunità, bene. Allora, senti, digli alla Biancofiore sì. che invece di una mamma come lei avrei preferito avere Pasolini o Leonardo da Vinci o qualsiasi omosessuale che ne conosce. Addirittura? La mamma che dice queste cose. Cioè quella sui gay, dici tu? Sì. Quelle sui ragazzini che saranno... Che qualche anno, quanto è vecchia una persona così? Cioè dici è meglio avere come due papà, tra cui uno Pasolini, ci cioè, avrei preferito no, avere... Di avere tuo papà è Leonardo da Vinci e la mamma è Pasolini, mica male come educazione. Vabbè, te credo. Sì. Michelangelo è un altro. Invece c'è la Banca Biancofiore, poveretta, professione figa. Come professione figa? Dai. Cioè dici l'unica cosa è quella, dici? Ma guarda che non è nemmeno troppo, cioè non è che sia adesso... No. No, non è che sia la Carfagna, una bella donna, una bella ragazza. Sì, vorrebbe. Ma che ha fatto di male poi, scusa, alla fine? Cioè, ha fatto queste dichiarazioni sui gay, vabbè, ma insomma... Ah, secondo te non è grave. Ma certo, alle pari opportunità non sarebbe stato, forse alle no... Alle pari forse una che dice una roba così, ma è solamente in Italia può succedere. Non era il caso. Sì, forse proprio pari opportunità non sono, effettivamente. Ma non perché uno debba essere per forza a favore del matrimonio gay, eh. Ma non... no, ma anch'io sono a favore del matrimonio in generale, però poi non me ne frega niente, insomma. No, lei è una persona, una politica, una persona pubblica, non può dire questa roba qua, mi spiace. Senti che diceva pure, senti che diceva, Marrazzo andava a trans, viva Berlusconi che qui piacciono le donne. Senti quest'altra roba qua, eccezionale, che abbiamo ripescato, eh. Aspetta, Oliviero. Te l'ho detto, professione figa, qui piacciono le donne. No, no, non credo che le piacciono le donne. No, non credo proprio. Guarda, era fidanzata fino a pochi giorni fa con un milionario, tra l'altro mezzo di colore o cose di questo tipo, un emiro, una specie di emiro. Senti. Avevamo un presidente della Regione Lazio che andava a transessuali con la macchina di servizio della Regione Lazio. Ma di che parliamo? Ma viva Dio Berlusconi che gli piacciono le donne. Ma qual è il dramma? Capito? Anche qua il subumano, dai. Ma no, tutti subumani mo adesso. No, questo qua è il paese subumani. Comunque certo che questo scouting dei sottosegretari non deve essere, cioè deve essere stato particolare, ma lì è stata una scelta di Berlusconi, non è che l'ha scelta Letta, eh. Ha detto datemi qualche nome, quelli hanno fatto il nome della Biancofiore, via. Perché speriamo, se Letta avesse fatto sia una scelta di Berlusconi, perché se no sarebbe grave. Beh, sì, perché voglio dire, bastava fare un giro nei siti per dire e mettere insieme Biancofiore gay, perché spuntavano fuori queste robe qui e uno magari per opportunità porta, no? Biancofiore gay pari opportunità, perfetto, l'Italia è fatta. Vabbè. Senti Oliviero, ma scusa, l'hanno fatto apposta, no? Non è che ma no, può... no, che c'entra, scusa, che c'entra? L'hanno fatto apposta perché hanno detto più volte che quello lì è un tema che non deve essere affrontato da questo governo, da questo ma governo. Ma non credo, non c'era bisogno di mettere la Biancofiore. Cari miei due trappole, dovete aspettare a sposarvi voi due, capite? Perché dovete aspettare. Con la Biancofiore lì non potrete mai sposarvi voi due. Ah, noi no. Non ma è noi possibile. Non siamo omosessuali. Ma non specificare, non c'è bisogno di specificare. No, ma non c'è bisogno per te. Ma cosa c'entra essere omosessuali? Ma chi lo sa? Sì, appunto, basta dire non ci possiamo sposare, basta. Non... Come siete vecchi. Ma poi non è che uno va a parte, non è che uno va lì a sposarsi e dichiara di essere omosessuale, si sposa appunto. E basta, può essere anche un matrimonio di interesse, no? Cioè, ce ne sono tanti tra uomo e donna, perché non possono esserci tra uomo e uomo di matrimoni di interesse? Vabbè, allora uno si può sposare anche con un asino a quel punto. Ma no, l'asino che c'entra, appartiene ad un altro. No, l'asino. Ma tu faresti una pubblicità per la Lega? Se ti pagano? No. Mai fatta per la Lega? Posso permettermi di no. Ma se dovessi fare una pubblicità per la Lega, come la faresti? Ah, mi divertirei. Sì? Sì, te la racconto domani. Pensaci un attimo. È un tema questo. Sarebbe straordinario. Ma la Biancofiore invece la prenderesti come testimonial per una campagna? Ma io non prendo mai testimonial. Cosa le vuoi far testimoniare? E che ne so? Cioè, va sempre col cane le mele dell'Alto Adige, che ne so io. No, vale poco per quello, non è un esempio di niente. Un abbraccio Oliviero, non ho capito quale era l'auto blu dove doveva sparare Preiti. No, se lui invece sparava lì là, pigliava un'auto blu, avrebbe fatto... Adesso sono dovuto sparare, però dico, adesso beccato il parabrezza di un'auto blu, sarebbe stato molto più forte. Ah, tu dici solo il parabrezza, sì, naturalmente. Beh, solo il parabrezza. Sì. Solo il parabrezza. L'auto parcheggiata. Sì, parcheggiata, dici spara l'auto blu. Questo povero disgraziato, non prendertelo più in considerazione. Ma io, guarda... soprattutto legarlo al disastro. Bravo, io mi incazzo beh, con chi questi giorni ha detto il caso Preiti è legato alla crisi, al disagio, ma di che parlate? Ma non è vero. Ciao, un abbraccio. Esatto, ce l'ho io. Quando ho visto che Profumo ha preso 30 milioni di euro di liquidazione e poi fa il presidente... Ma quello ha fatto bene, il problema è chi l'ha dati, forse. No, ma... però io se fossi Robin Hood andrei a rubare a Profumo. Cioè tu spareresti a Profumo, per esempio? Sparo, ma vado a rubargli... Ma va a morire, ammazza e vattene. Tu sei come una piccola zanzara. Beh, è tutta da sentire, caro Parenzo. La tirata di ieri sera di Alessandro Sallusti mi ha addirittura chiamato alle 11:30 di sera con la voce un po' stanca. Ho sentito Sallusti da Santoro dire una cosa pazzesca. Io invece sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Sallusti a proposito del signor Preiti. Beh, mi stupirei del contrario, diciamo. In America avrebbe fatto un'altra fine il signor Preiti. Quel signore gli va bene, gli è andata bene una cosa, quel signore, che siamo in Italia. Perché se fossimo stati in America, ma credo in qualsiasi altro paese del mondo, al secondo sparo sarebbe stato trafitto da 100 proiettili delle forze dell'ordine che senza pensarci neanche un secondo avrebbero aperto il fuoco su di lui. Cosa che secondo me non sarebbe stata nemmeno sbagliata, perché se uno spara la prima cosa è fermarlo. Beh, come dare torto al signor Sallusti, scusa, Come dare torto al signor Sallusti? E anche, scusami, l'immagine truculenta, sì, violenta, la Pulp Fiction in cui sarebbe stato trafitto da migliaia di colpi. Cioè, ma stiamo parlando di una vita umana. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ma io non capisco come ti sei ridotto a questo livello di cinismo. In cui, voglio dire, ma perché in America sono cinici? In America i poliziotti sparano. Se uno spara, un poliziotto spara. Come si fa ad inneggiare? Ma miri magari alle gambe. Ma non lo so. Comunque è andata bene a Preiti. È andata bene a Preiti. Ha sparato contro un poliziotto. In America l'avrebbero crivellato. L'avrebbero crivellato. Ma che si può dire in un bar? Ma perché? Perché devi essere così corretto? Ti stai trasformando in un personaggio docile, in un personaggio banale. Ma non è che bisogna, per essere, cioè per non essere non banale, bisogna, no, dire, devi dire quello che per... pensi, non è una stronzata. Sallusti, l'azione di Preiti è in linea con il grillismo, senti. Ma io ricordo perfettamente che a ottobre lei teorizzava che le rivoluzioni possono anche essere violente. In alcuni casi la rivoluzione può essere violenta. E questo ci sta... Ed è perfettamente in linea col grillismo, perché Grillo ha usato la parola d'ordine di Grillo, era una parola d'ordine militare: arrendetevi, siete circondati, arrendetevi. Ora la conseguenza è coerente: se uno non si arrende, uno spara. Arrendetevi! Arrendetevi! Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili! Vabbè, non sembra proprio una parola d'ordine militare con gli eserciti, con una risata in mezzo. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Ieri una ragazza strangolata a Livorno, oggi un'altra assassinata a Ostia e poco fa a Roma una guardia giurata uccide la compagna e si suicida. Minaccia la Boldrini. Per l'Unione Europea male occupazione, crescita e debito, ma sul deficit ci siamo e si va verso l'uscita dalla procedura di infrazione. Tra poco giurano i sottosegretari, bufera su Biancofiore, accusata di omofobia, nessun piemontese ed è subito polemica, Borletti Buitoni minaccia querele. Riforme e ostacoli, Berlusconi vuole la presidenza della convenzione, Fassina al TG3, no, lui non garantisce tutte le forze rappresentate in Parlamento. Nuovo attacco hacker a 5 Stelle, violata la corrispondenza di altri due deputati. Grillo attacca, SEL, Lega, Fratelli d'Italia sono zombie politici. Non sono di colore, sono nera, lo ribadisco con fierezza, dice il ministro per l'integrazione Cécile Kyenge. Dialogo per abbattere i muri del razzismo. È oggi giornata mondiale della libertà di stampa, ci sono giornalisti che rischiano la vita per sfidare il silenzio e da 3 settimane nessuna notizia di Domenico Quirico. Zanzare con l'odioso insetto. Posso dire una cosa sulla vicenda della Boldrini? Dell'intervista di oggi che ha fatto scatenare poi polemiche. In realtà nell'intervista non si dice mai che c'è l'anarchia sul web e nemmeno si invoca una legge. Comunque si dice che bisogna controllare, indagare, cosa che peraltro si fa. Ma posso dire che io me ne frego totalmente delle minacce che vengono rivolte alla Boldrini sul web. Ma tu non ormai perché... hai talmente alzato l'asticella che non mi stupisce più nulla. Ma non perché me ne frego che qualcuno minacci qualcuno, perché ci sono ogni giorno decine e decine di persone minacciate sul web. E cioè, quindi? Sul web esiste qualsiasi cosa. E quindi? Innanzitutto la Boldrini se ne accorge adesso che nel web c'è l'odio, c'è anche l'odio. E non capisco perché tutta questa solerzia da parte parte dei magistrati che leggono la mattina Repubblica e poi dicono: beh, apriamo un fascicolo. A parte che è da giorni che c'è la vicenda del hackeraggio dei 5 Stelle e nessuno ha aperto nessun fascicolo. Vabbè, a parte che era già stato fatto. Ma il web è pieno di odio, bisognerebbe aprire un fascicolo ogni 30 secondi. Ma di che parliamo? No, dai, su. Io, grazie anche alla mia denuncia, ho fatto chiudere un sito che è Stormfront, lì, un sito hai di sbagliato, Nella, hai sbagliato. E ho sbagliato un cazzo, invece l'ho fatto chiudere, grazie non solo a me, ma alla denuncia anche di molti altri che sono stati minacciati e offesi. Vabbè, fammi sentire Luigi dalla provincia di Torino intanto. Per te è tutto un vomitorium ormai. Ma che vomitorium? Io ho semplicemente detto che non è la prima e l'ultima, non sarà la prima e l'ultima a essere minacciata sul web online. Cioè, vabbè, ma non è che per questo bisogna lasciar correre. Ma che vuol dire? Ma è una parola. Dici delle parole, senza così non bisogna lasciar. Ma poi concretamente che cosa vuol dire? Non lo sai nemmeno tu. Dici delle cose di una tale banalità. E vai a fare una denuncia. Vai a fare una denuncia. Sì, ma non è che apri un problema mondiale. Non è che apri un problema mondiale sul web. Quello sto dicendo. Non è un problema mondiale. Infatti io sono contro. E allora basta. Questo sto dicendo. Dai, su. Quando uno io mi sento offeso e minacciato. Appunto, appunto. Luigi, fammi sentire Luigi. Bravo. Infatti questo si può fare. Secondo me è sbagliato, ma si può fare anche questo. Luigi dalla provincia di Torino. Ma certo, ma basta. Basta però di invocare cose generali. C'è un problema senza dire quali sono le soluzioni. Se non la denuncia individuale. Il problema è che ognuno si prende la responsabilità di quel che perché non è che lì puoi fare quello che ti pare. Luigi dalla provincia di Torino. Certo che non puoi fare quello che ti pare. Sì, d'accordo. Mamma mia, 5 volte l'ha detto mio nome, mamma mia. Luigi, sì, è in onda, sì, parli. Allora, io sono Luigi Subac, di origine indiana inglese. Innanzitutto volevo presentarmi. No, ma non c'è bisogno che si presenti, basta dire Luigi della provincia di Torino, non c'è problema. Bravissimo, bravissimo. No, volevo semplicemente dire che lei ha avuto, non so, una metamorfosi tipo Scarafaggio kafkiano ultimamente. Sì, sì. È vero, cioè, me lo conferma. Dice un mucchio di parolacce ultimamente, vada a fare il culo, vaffanculo, eccetera, eccetera. È un problema per lei? È un problema per lei? Assolutamente no. E allora, basta. E allora, che vuole? E volevo farglielo presente, voglio semplicemente farglielo presente. È mica mia madre lei, cioè che mia madre lei. Ma meno male, è mio psicologo, è mio psicologo lei, non ho capito. No, tutt'altro. E allora che vuole? Se non le piace, se le piace è così, se non le piace cambi canale. Benissimo, al casello di Carisio. Per sì, ma non so dove vuole lei. Ma io l'ascolto anche per quello. E allora che vuole? Perché dice uno scarafaggio? Di che parla? Ha avuto una metamorfosi comunque. Vabbè, ma questo lo dice lei? Questo lo dice lei? È la palissiano. Ma è una mia opinione e sono qui a dirglielo. Benissimo, poi? Poi? Seconda cosa, io al Salone del Libro l'anno scorso ho fatto una foto con Borghezio. Io essendo di colore, nel senso che sono metà inglese, metà indiano. Ma dove ha fatto la foto? Quando era ospite da lei al Salone del Libro, sì. Al Salone del Libro, sì. Tra l'altro l'ho twittato, quindi se lo vado a recuperarlo, sì, poi? Sì, vado a recuperarlo. Comunque, ho twittato una foto mia con Borghetto e ho detto al signor Borghetto, visto che fa tutti questi turpiloqui contro i ministri di colore, i ministri neri, ma stia zitto. Io sono andato da lui chiedendogli, signor Borghezio, egregio signor Borghetto, potrei fare una foto con lei? Oppure, e gliel'ho detto in piemontese, visto che sto parlando poi di piemontese, Borghetto in piemontese, gli ho detto, manda a stendi, cioè mi manda a stendere, che è una frase tipica. Autoctona. E lui mi ha detto, certo, perché dovrei mandarla a stendere? E abbiamo fatto questa foto. E quindi allora lui non ho capito. Tanto, sì, fa tanto il buffone di corte e fa tutte queste pantomime, questi turpiloqui, ripeto la parola turpiloquio perché ha detto, allora? Se mi permette, visto che parliamo male, ha detto una stronzata Borghetto sulla gente di colore. Perché deve avercela con la gente di colore? Cosa le hanno fatto? Puzzano secondo lui? Cos'ha la gente di colore rispetto alla gente che ha un lei vuole dire, io mi stupisco che ha fatto una foto con me, questo vuole dire lei? Appunto, doveva dire no, perché lei è di colore. Ma perché no, tu sei di colore. In realtà il problema è. Allora stia zitto, non faccia mille frasi e mille orpelli sulla gente di colore, ma stia zitto, davvero. Se lo rivedo, gli dico, guardi, quel Borghezio ha fatto una foto con una persona di colore. Tu sei come una piccola zanzara. Sono molto contento di ospitare in questa trasmissione, in questo caravanserraglio, il mitico Bebo Storti, attore. Oh, buonasera. Buonasera, come stai? Grande. Molto bene, bene, molto bene. Che cosa sta facendo in questo periodo al Piccolo Teatro di Milano? Piccolo Teatro di Milano, stiamo per arrivare il 9 maggio, io, Renato Sarti, Elena Novoselova, con un Otello Spritz. Otello Spritz? Otello fatto in tre... fatto solo da tre attori, un modello in cui si parla anche di femminicidio e di violenza sulle donne. Ma la Lega che fa tutte queste affermazioni con un ministro di colore, lei che ne pensa, Storti? Ma sono dei cretini, dai, smettiamola. Ah, solo dei cretini, così? Sì, sono solo degli stupidi, in più, da quando sono a Roma mangiano il doppio di quelli che dicevano che mangiavano, quindi stiamo parlando di gente di cui non vale neanche la pena discutere, secondo me. Addirittura, prima Oliviero Toscani diceva dei subumani e basta. Io non mi spingo a giudicarli dal punto di vista, diciamo così, semantico, etnico e fisionomico. Dico solo che vorrei parlare di cose più divertenti e interessanti, che non di quattro bagonghi che urlano, strepitano, danno del negro di qua, negro di là. Insomma, veramente, noi siamo un popolo civile, fatto di belle persone, bella gente. Sì. Noi abbiamo la Boldrini, che è una donna straordinaria, che ha ricevuto minacce. Sì. Però molti dicevano minacce sul web, non solo la Boldrini. Certo, Storti, io sono il primo a sostenere che il web non va sedato e monitorato, perché su 20 milioni di persone, 1000 stronzi offendono, anch'io dicevo minacce. Ma tutti riceviamo, tutti quando uno riceviamo, si espone, cui... quando uno si espone e dice delle cose, poi ci sono 100 imbecilli che ti dicono vai a farti non fottere. Mi ha fatto un gran piacere da parte della Boldrini, che è una donna che io stimo tantissimo, questa cosa, siccome mi hanno minacciata, siccome minacciano genericamente, lo controlliamo, questo non mi va, però devo riconoscere, io do la mia massima solidarietà alla Boldrini, così come la do a tutti quelli che fanno un lavoro terribile, vengono minacciati. A proposito di governo, Storti, ma ha sentito come ha ripreso a parlare Brunetta come un pazzo? Pensa di essere in una sorta di monocolore. Cioè... Ma Brunetta, prima o poi qualcuno dovrebbe dire che su scherzi a parte. Cioè, è uno scherzo, dai. Anche lì mi fate perdere tempo con i leghisti, va bene, vi do retta, siete molto carini, vi trovo molto intelligenti e simpatici, ma non mi rompete i coglioni anche con Brunetta, per favore. Vabbè, ho capito, però si arrenda, Storti, è diventato di nuovo, è di nuovo nella maggioranza, decide le sorti anche dei suoi soldi, dei suoi quattrini, Storti, ha capito? Io senza poter dire niente, perché non ho i soldi per pagarmi gli avvocati per 20 anni, perché quello è piccolino e pure carogna, sposo in pieno le parole di Dario Fo e non aggiungo altro. Sì. Chi per certi mari va, certi pesci piglia. Ti comporti in un certo modo, fai finta di sapere le cose, non le sai. Eri in Italia con De Michelis, Craxi e Tremonti quando l'Italia sprofondava nella merda. Sei stato sulla Cadrega per tanti anni, hai fatto e non fatto soprattutto cose. E se qualcuno ti dice qualcosa, non rompere il cazzo, piatti sta cosa e portatela a casa. Allora, abbiamo la borsa, torniamo subito con... La borsa, sì, mi interessa che molto. Dobbiamo fare? Lei ha azioni, ha? Ha delle azioni? Niente, io i soldi ce li ho sul mattone. Sangue e merda. Sangue e merda. Oh, eccoci qui, 800 24 00 24. Tu lo sai, Parenzo, che io il venerdì sento la borsa e mi viene proprio il latte ai cosiddetti, no? Il latte. Perché? Non alle ginocchia, ai cosiddetti, non lo so perché. Comunque, diciamo a Bebo, mi viene il latte anche... alle palle. Diciamo a Bebo, che tra l'altro è stato anche un ottimo consigliere regionale. Ottimo, che ne sai, mica hai studiato il suo percorso. Ma io ero in Lombardia all'epoca. E vabbè, ho capito, eri in Lombardia. L'hai mai invitato ad Iceberg? Sì, come più volte, non è mai venuto. Non è mai venuto perché giustamente non veniva in quel postribolo che avevi creato ad Iceberg, giusto, Storti? Ma dai, non fate così. Io non ho nemici, io sono una persona... A me, guarda, Brunetta non l'è simpatico. Mi danno il Nobel della pace, mi devono dare il Nobel della pacina, perché, capito? Cioè... Brunetta non l'è simpatico, Ma allora, io stimo le persone brave, intelligenti, non so, Gino Strada, lo adoro, lo volevo presidente, poi lui è troppo intelligente, non mi ha ascoltato. Don Gallo, la Boldrini, insomma, io adoro queste persone che, oltre a prendersi responsabilità e fare un grande sacrificio, un grande lavoro per il paese... Sono oneste, si danno a fare, Brunetta che ha fatto di disonesto. Hanno tendenze politiche sospette e pelose per interessi personali. E Brunetta che ha fatto? Piccineria, insomma, a me piacciono le brave persone. Beh, Brunetta a me non mi piace, ma sono affari miei anche. Su Twitter, tra l'altro, Parenzo, Bebo Storti ha scritto Parlamento. Questa l'ho trovata meravigliosa per l'ironia che c'è dietro. Un anziano distinto grida a Brunetta: stronzo, sali sul cofano dell'auto blu che non te vedo e non riesco a mannarte a fanculo. È vero, ero di fronte al Parlamento, c'era questo negozio, lì c'è questo negozio che vende... Ma l'hai sentita per davvero? No, è successo sul serio, sì. Cioè? Allora, io ero lì che stavo girando al Parlamento, ero andato in galleria sordo con Padre Libera Feltrinelli, eccetera, eccetera. Poi esco, mi faccio un giro, stavo per infilare via dei Bergamaschi, quando a un certo punto un signore che usciva da un negozio, un Roma Point, dove vendono i gengiri della Roma, sì, con un sacchettino, lui molto distinto, tipo regalo, sì, per il nipotino, una roba così, arriva Brunetta, boom, due auto blu, boom la Maserati, boom sto cazzo, scende e lui resta molto inviperito. Io non so se per sue questioni personali con Brunetta, e gli rivolge questo epiteto così. Cioè, che dice? Lui gli ha detto proprio così: oh, a Brunetta, sarei sul cofano che non te lo riesco a mandare a taffanculo. Poi ha inveito, ma a quel punto io sto ridendo, ho girato l'angolo e sono andato via, perché spero non l'abbiano menato quelli della scorta. Ma, poi, no, ma perché, dici che ha ragione Dario Fo a parlare dell'altezza di Brunetta? Ma non è una questione di altezza, è una questione che quando tu non hai niente da dare, veramente interessante e profondo, la gente ti critica per quel che sei. E intanto Berlusconi è tornato al governo. Sì, sembrava morto un anno e mezzo fa. No, quello non muore mai, quello è eterno, quello è Glender, ne resterà solo uno. Quando la terra sarà una palla di sabbia senza neanche un essere umano, lui sarà ancora lì che si gratta i maroni nudo solo nella sabbia. Ma scusa, ma perché non fai una roba politica al teatro? Guarda che una roba da grande predicatore, sai, i predicatori americani, no? Certo, sì, sì. Ma quello farò, dovresti fare, dillo farò, al tuo agente, no? Intanto il 9 c'è Otello Spritz, che è sul femminicidio. Delitto perfetto, fai elezioni, fingi di tentare un governo, fallisci, eleggi un vecchio e il partito che ha preso meno voti governa. Poi aggiungi una cosa, zio porco, che si può dire, per carità, non ci facciamo cacciare. Questa è l'analisi politica, Parenzo, di Bebo Storchi. Zio porco, no, attenzione, io non bestemmio mai. Zio, l'ho detto, zio porco. Ecco, no, che non si capisca un'altra cosa, che ho tanti amici credenti, cari, che non voglio offendere, ci mancherebbe. Ma solo il quello. PD che fa l'accordo col PDL, come lo definiresti? Come? Il PD che fa l'accordo col PDL, come lo definisci? Ma il PD è un partito quasi democristiano, sono rimasti quattro compagni più la base, che è molto sana, molto bella, ma che se ne sta andando. Alle prossime elezioni, secondo me, così a naso, sì, le Croce prendono il 2, cioè. No, è il 2 addirittura, dai. Il 2. Ma cazzo, scusa, tu tradisci la base così? Fai risorgere per l'ennesima volta il diversamente alto. Cazzo, la gente come deve trattarti, scusa. Sai che non lo conoscevo quando è così spigliato, così è il numero uno, Bebo Storti, è veramente il numero uno. Scusa, ma la Biancofiore... Io quando parlo di politica, perché la politica in fondo, se non fosse che stanno andando, mi si passi il francesismo, dritto in culo alle brave persone, agli italiani, ai lavoratori, ai pensionati, la politica di per sé sarebbe anche divertente, perché è un mondo tutto loro che si sono creato, fatto di privilegi, fatto di... È rientrato mio figlio, fatto di privilegi, fatto di... Ma che hai votato tu, Bebo? Che hai votato? Non ve lo dico. Ma come non lo dici? Mica sei il Papa. Lo dichiaro apertamente. Dimmi. Io, da buon anarco indipendentista non violento, non ho votato. Anarco indipendentista non violento? Perché tu sei pure indipendentista, sei? Certo. Cioè sei separatista? Io sono separatista. Cioè vuoi il sud separato dal nord? No, io voglio andare in Svizzera. Ah, te ne vuoi andare in Svizzera, sì, in questo senso? Io personalmente. Ah, io sei separatista di te stesso. No, diciamo. Ho votato, sono andato a votare, ma non mi dico cosa ho votato. Dai, Grillo, hai votato, su, dai, hai votato Grillo. No, dai. Ma perché? Scusa, ma quel prete ha fatto male a sparare, sì, naturalmente. Regiolani, io ho votato Mulbauer e Ambrosoli. Ambrosoli mi sembrava chiaro, insomma. E Mulbauer, che è una persona fantastica, che voterei a occhi chiusi sempre. Scusa, Bebo, ma Preti che è andato là sotto, lo giustifichi? A sparare? No, per carità di Dio, non scherziamo. E che ne so, sai. No, nel senso che può succedere, purtroppo. Non mi dire che è colpa della crisi. Dato la tensione sociale, dato il malessere, dato la gente che sta male, dato che tutto sta diventando una grande melassa maleodorante in cui, capito, chiunque può parlare e può far del male alla gente, qualcuno a cui scende la catena prende il cannone e va a sparare. Certo che non lo giustifico, ovviamente, ma può succedere che si sappia, perché la tensione non è provocata da quelli come Preiti, è provocata dagli altri. Poi ce n'è qualcuno come lui che impazzisce, per carità. Ma no, dai, non è mica colpa della società se Preiti va a sparare al carabiniere, dai, su, non ti ci mettere pure te con queste teorie assurde. Anche. Ma che ha? Sicuramente colpa sua, aveva delle motivazioni. Ma giocava ai videogiochi, Bebo. Ma si è rovinato col gioco, dai, Bebo, dai. Vabbè, ho capito, che cosa vuol dire? Non è che tutti quelli che si rovinano col gioco vanno a sparare i carabinieri in testa. Io e te stiamo pagando della gente che non dovrebbe neanche uscire di casa. Cioè, tu cosa faresti ai politici, scusa? Io li manderei a casa tutti. Tutti? 2.500 euro di stipendio, vuoi stare a Roma, vuoi fare politica, credi veramente nella politica, vuoi veramente servire il popolo, il tuo paese, fare delle cose belle, importanti, essere ricordato come una persona nobile e operosa? Benissimo, pigli 4 lire e non rompi il cazzo. Scusa, ma la Biancofiore nominata sottosegretario? Lascia stare. Ma no, è che lascia stare, è una notizia del giorno, commentiamola. Penso un po' come siamo messi, quella lì è una notizia del giorno. È una delle notizie, e questa è le sue posizioni. Il computer che mi fa molto ridere, te lo posso dire? Dimmi. Ah, quell'area un po', io non so quanti anni abbia, ma non voglio 42. Dire, essendo donna non vorrei dire... No, tu devi essere quello che sei, non fare... No, mi dà un po' quella sensazione di quelle donne che escono di casa col tubino nero e va sempre tutto bene. Cioè? Vabbè, mica che offesa è. Il tubino sono a posto. Io non so che qualifiche abbia lei per ricoprire il ruolo istituzionale che ricopre, secondo me non ce le ha, però... E che tipo di qualifica ha, secondo te? Non lo so, non lo so. Tanto non mi farete dire cose di cui posso pentirmi, non preoccupate. No, e che ne so, già le hai dette abbastanza. No, ti abbraccio, a presto, buone, ti richiamerò se vuoi, ti richiamerò. Va bene, prima... d'accordo. Ciao, presto. Grazie, ciao. Marina da Lucca, buonasera, Marina. Buonasera, ciao. No, io volevo intervenire appunto sulla Biancofiore, cioè rispetto alle sue dichiarazioni che tra l'altro ha fatto anche alla Zanzara rispetto ai figli degli omosessuali che crescerebbero devastati. Allora, secondo me una persona può anche fare certe affermazioni motivate dal fatto che sei omofobo, che ti fanno schifo i gay, eccetera, però non li puoi fare come politico e come sottoministro, perché basterebbe informarsi. Ma infatti non le ha fatte come sottosegretario alle pari opportunità. Sì, però una persona che le ha già fatte prima. Avere questa premessa. Ma è sbagliato, cioè, ma io l'ho detto. È una condizione in cui, perché basterebbe informarsi per vedere che c'è una letteratura scientifica dagli anni 60 in cui ormai è stato dimostrato più volte che non esiste. Guardi, Marina, lei sa come la penso io. Qui leggo, mi hanno scritto lesbica con figli, ogni tanto mi riassumo delle cose in maniera brutale sulle persone che chiamano. No, per è giusto, lesbica. Allora, io sa come la penso su questi argomenti qua, per cui figuriamoci, sono a favore anche dell'adozione. Però il problema è un altro. È una follia. D'accordo, il problema è un altro. Il problema è un altro. Bastava comporre, siccome è sottosegretario alle pari opportunità, bastava comporre. Io non so se poi lo pensa sul serio, se farebbe delle leggi di discriminazione, non credo. Bastava comporre tre parole, due, Biancofiore gay, e sarebbero uscite una serie di cose. Ora, io la metto sul piano della comunicazione. Cosa ci voleva, caro Letta, o chi ha trattato per lei sottosegretari, a evitare questa bufera di oggi? Ci voleva nulla. Zero, bastava non nominare la Biancofiore sottosegretaria alle pari opportunità. Se lei ha deciso, Berlusconi è un altro motivo. Se come la pensa Parenzo invece sia una sorta di nomina fatta apposta per dire di queste cose qui sicuramente non faremo nulla, io non ci credo che ma sia scusami, così. Ma scusami, ma al governo ci sono dei non fanno nulla, ma quello cioè proprio ma non è così, dai, non è così. Sine qua, ma se è sicuro, ma è chiaro che è così. Appena tirano fuori un non ci credo che sia una così. Proposta di legge, loro fanno cadere. Non ci credo che sia così, ma è evidente. Ma non c'era bisogno, Marina, non c'era bisogno, perché a noi nemmeno stavolta ce li fanno. Quello può darsi. I nostri figli sono orfani. Però Marina, scusi un attimo, io le dico una cosa, può darsi che sia così, però non ci voleva la nomina della Biancofiore, non ci voleva la nomina della Biancofiore, nei suoi discorsi alla Camera e al Senato, Letta non ha fatto nemmeno un accenno a queste cose qui, mi pare evidente, ma mi pare evidente che nell'accordo... C'è per la prima volta. Ma quale programma elettorale? Quale programma? Il programma elettorale del PD. Ma non vale più nulla, non vale più niente di quella roba lì, niente, nulla. Per noi, solo un'ultima cosa, per noi questa cosa è contata molto, perché per la prima volta eravamo in un programma, per la prima volta, cioè finalmente davanti all'evidenza la Marina, faccia a tutti. Marina, quella roba lì è finita, è morta. Grazie. Daniele da Bologna, buonasera. Daniele, dica. Sì, dottor Crociani. Vada. Io avevo telefonato con l'intenzione di fare una domanda al signor Toscani, che non è più presente, per cui magari la pongo a lei. Beh, se posso rispondere, questo, al posto di Toscani non mi sembra, poi qui non si pongono domande. Ho sentito parlare il signor Toscani di subumani. Allora, sì, se il modo di ragionare di una persona è da considerarsi un criterio giusto per distinguere gli umani dagli inumani, sì, perché lo stesso non potrebbe valere come criterio anche il valore, il colore della pelle? Che vuol dire non potrebbe valere il luogo della pelle, il colore della pelle? Non ho capito. Cioè, se per distinguere una persona, ma la parola subumano sulla bocca, la parola, è il suo modo di ragionare, la parola subumano sulla bocca di Toscani voleva dire che il modo di ragionare della Lega gli sembra da subumani, questo voleva dire. Ma allora uno potrebbe usare lo stesso criterio usando altri. Il colore della pelle non è di per sé criterio per dire una persona è un umano o un subumano. Toscani potrebbe esserlo per altri. Io non ma per altri per chi? Se lei lo pensa, se lei pensa che gli umani siano i bianchi e i subumani siano i neri, lei è un criminale, un pazzo, un razzista. No, ma io abbia non pazienza. Lo penso assolutamente. Poi per me ha tutto il diritto di pensarlo. Ci sono tutti i ragionamenti sbagliati. Fare la distinzione fra umani e subumani in base a queste cose. Cioè uno la può pensare diversamente da un altro ed essere tranquillamente una persona umana. Può benissimo ragionare in modo sbagliato, non capisco perché debbano essere intelligenti umani tutti quelli che la pensano come me, ma no, e magari subumani. Ma lei come la pensa poi? Lei come la pensa? Non ho capito, come la pensa? Un criterio sbagliato. Sì, ma andiamo a... Io, scusi, sa, io ho degli amici che la pensano politicamente in modo completamente diverso da me, eppure ci apprezziamo perché ci riconosciamo persone. Daniele, voglio capire come la pensa lei. Secondo lei i neri io sono subumani? Subito, io sono sempre stato di destra. Ma che vuol dire? Quelli di destra non è che di pensano? Quello che passa il convento, è chiaro. Però io sono sempre stato di destra. Io distinzioni razziali fra le persone non ne faccio assolutamente. Non sono un razzista, però sono uno xenofobo. Che vuol dire lei è uno xenofobo? Non ho capito. Della parola. Che vuol dire? Poi me lo spiega dopo, fermo là. Sono spaventato. Lei è spaventato da chi? Dalla gente di colore? Non le toccherei mai, per carità. Però non li vorrebbe fuori dalle palle, diciamo. Non fuori dalle... Ma no, non mi metta in bocca. Ma lo so, è una domanda che le faccio. Non è che... Sono troppi. Cioè, ma guardi tutti... che i numeri non dicono così che sono troppi. Daniele, resti lì, resti lì, resti lì. Resti lì. Anche l'interpretazione dei numeri... sa, resti lì un attimo. Resti lì un attimo. La zanzara che punge nel vivo. Allora, ad Aosta, caro Parenzo, non si trova... Non si trova in Groia, non si trova in Groia ad Aosta. No. Ma al posto di in Groia è andato Maurizio Gasparri. Buonasera Gasparri. Ebbene sì, anzi in questo momento mi sono spostato da Aosta e sono venuto a Courmayeur. Non a sciare perché oramai la stagione è finita, ma per fare un giro elettorale perché si vota in Val d'Aosta. Però scusi Gasparri. E invece di in Groia sono venuto io. E come mai questa cosa qua? Scusi, ha anticipato in Groia che peraltro a Aosta no, non ci vuole andare. In Groia lui non ci vuole andare. E come perché mai? Perché lui non vuole lavorare, vuole fare i partiti. Ne ha fatto uno che ha preso l'1%, poi ne ha fatto un altro che prenderà anche meno e si rifiuta di accettare il trasferimento. Ma lì ad Aosta, lei che è stato lì sì, in campagna, che dicono? Cioè attendono con impazienza l'arrivo di Ingroia? Ho trovato un totale disinteresse per la vicenda di Ingroia. Quello è chiaro. Cioè dalla sera non ce ne può fregare di meno, loro non dicono così perché non parlano come noi di Roma e hanno un altro dialetto. Però la questione non appassiona nessuno, quindi io sono arrivato a sorpresa, ho detto sono venuto io. Però non mi sono presentato in procura perché non ho i titoli per andare a fare. Ma la targa che ci fanno? Che ci fanno con la targa lì? Che a un certo punto avevano mostrato in televisione anche la targa, no? Con scritto no, dottor Ingroia. Sì, io l'avevo vista. Ah, vista. No, quella non l'ho vista. Comunque, ma perché non vuole lavorare, dice lei? Lui vuole fare il politico, l'ha fatto anche prima, quando era con la toga. Sì. Adesso è diventato politico, gli è andata male perché come pare che ha preso il 2%, no 2,5 credo. 2,5. Adesso ha fondato un altro partito. Allora io dico trasparentemente, se ha deciso di fare un'altra cosa nella vita, si diventa la magistratura e faccia il politico. Noi poi di, come dire, avversari come Ingroia che prendono 1 o 2% e magari se ne mandassero un altro po', noi qui li andiamo cercando. Adesso avversari non votati. Adesso hanno messo da rivoluzione, com'è Parenzo, da rivoluzione civile, azione civile. Ad azione civile. Tu sei un grande fan di Ingroia, Parenzo, vero? Sei un grande fan o no? David? Ma svenuto. Che stai facendo? C'è Gasparri e stai parlando con i soliti autori no, della RAI. Gasparri, vogliamo fare una cosa, ecco, lei mi dia una mano che ha molte entrature alla RAI, lei. Conosco tanta gente. Vogliamo far fuori subito Parenzo da RAI 3 con questo programma nuovo che deve iniziare? Deve iniziare un programma... Un programma nuovo Parenzo a RAI 3. A RAI 3. Già, questo fa capire molto... me lo faccia saltare. Lo faccia saltare subito questo programma, così. Purtroppo, guardi, non lo farei. perché sarebbe scorretto, non ne ho i poteri . E se li avessi non li userei, anche perché Parenzo è un po' come Ingroia, noi come avversario ci va bene Parenzo. Scusi, comunque è abbastanza normale che faccia un programma a Rai 3, diciamola tutta. Ma sì, Parenzo ci sta. Parenzo è un sovversivo, va benissimo, cioè, lo dico con le risate di sottofondo, se no mi trovo sulle agenzie che ha insultato Parenzo e mi querela. Beh, dopo questo, no, io non querelo mai, dopo questo endorsement mi aspetto veramente il 9%, grazie. No, adesso sai che fa, se io l'attacco gli fanno un contratto, la pagano anche esatto, più. Bravo, bravo, addosso a Parenzo, addosso a Parenzo. Se non farò aumentare i compensi di Parenzo, anzi ne parlerò bene, Parenzo è ottimo, è bravissimo, è affidabile. È di destra? Centro è di destra Parenzo, non l'ha detto a quelli di Rai 3, ma è di destra, di nascosto fa il saluto romano, fa tutte delle cose strane e non si fa vedere dai comunisti, e quindi io su Rai 3 lo vedo un po' in controtendenza. Sì, è un po' bizzarro. Grazie Gasparri, io l'amo, io amo Gasparri. Si troverà in difficoltà secondo me, si troverà. Sì, sì. Senta, ma parla sempre male della Berlinguer, dice delle cose terribili di Rai 3, sì. Parla male di Vianello, dice che era meglio Raimondo Vianello. Sì, dice che, scusatemi un attimo, dice che la Berlinguer non deve condurre perché questa cosa del doppio della doppia cosa è una vergogna. Lui Parenzo, lo dice Parenzo sempre. Sì, lo dice sempre. Sì, Parenzo, certo. C'ho le registrazioni, l'ho intercettato. Ma che hanno detto gli Che hanno detto lì? Parenzo, ma dove diavolo sei? Hai i telefoni fissi della Rai? Maledizione, io voglio impazzire. È tre giorni che mi fa fare dei collegamenti assurdi. Chiamami, sono a Viale Mazzini, sono lì in redazione, ti do il numero fisso. Non si sente, non funziona. Sono a Viale Mazzini, sono a Endemol. Ma che Endemol, dai. Endemol. Ma ormai Parenzo, io l'ho conosciuto a Tele Lombardia, poi la 7, poi la Rai, oramai è uomo in ascesa. È merito mio, Gaspar. Io continuo a toccare ferro. Gasparri. È merito mio. Gasparri? Ma come hanno reagito gli Stambecchi quando è sbarcato in Val d'Aosta? No, non li ho ancora incontrati, le devo dire, ad Aosta in città non c'erano. Adesso io sto qui a Corumer, dovremo un incontro elettorale tra poco. Sono preoccupati per Ingroia? La stagione invernale è finita, c'è ancora molta neve sulle montagne, qui c'è il Monte Rosa di fronte, sì. Però gli Stambecchi saranno in quota, non sono ancora scesi. E forse sapendo che veniva Ingroia sono scappati in Francia. Perché? Magari questo metteva sotto inchiesta... Ma sotto... certo, gli Stambecchi che c'hanno le corna, cosa cose... No, oppure riapriva Cogne, che ne sai? Riapriva Cogne, il caso di Cogne. Una cosa pazzesca. Qui ci sono alcuni gialli famosi. Ma ha sentito che cosa ha detto? O indago sulla mafia oppure non faccio più il magistrato. Questo ha detto, cioè io sono un magistrato che... capito, ma mica decide lui. Lui si è candidato alle elezioni. Ora facciamoci un attimo seri. Sì. Ci sono delle leggi che prevedono delle incompatibilità, dovrebbero essere ancora più restrittive. Perché quando uno si candida fa polemica con gli avversari politici. Sì. E se un domani uno che non lo ha votato, che lo ha criticato da politico, lo dovesse trovare come suo... giudice, ma scusi, se io dovessi giudicare uno, no? Uno direbbe, ma Gasparri è una persona che ha delle posizioni politiche caratterizzate. Però a Aosta, lei dice, manco da Aosta doveva essere nominato? Secondo me uno quando fa una scelta politica così intensa si dovrebbe dimettere. Di parte, dovrebbe fare una scelta e dire io faccio questo nella vita. Cioè uno ha diritto di fare il politico, però poi non ha il diritto di alternare un'attività politica e un'attività politica. Faccio l'inchiesta antimafia, decide il settore, decide la città. Non va bene. Pure non l'indagato bene, magari. Perché ma quello l'ha fatto sempre, perché scelgono quello da indagare. Scusi, lui su Ciancimino Junior, che è un vostro ospite abituale. Fisso, sì, abbastanza fisso. Che era sì. Un'icona antimafia. Sì. Dopodiché c'era il tritono in casa. Faceva truffe varie per le quali è stato indagato. Sì. È stato accusato di essere un calunniatore, ma lui per anni e anni... Vabbè, poi hanno litigato. Poi hanno litigato. Ma io non lo so, ma le pare che noi possiamo stare qui che se il giudice litiga con uno, poi lo incrimina. Invece se non litiga lo erige a icona antimafia. Io credo che Ciancimino Junior fosse un personaggio discutibile prima, durante e dopo gli elogi. Senta, Gaspari, io voglio dire una cosa. Oggi c'è una grande polemica sulla sua amica Biancofiore. Che non corre buon sangue, diciamolo subito. Allora, diciamo. Sono contento, le faccio gli auguri, sta al governo, faccia bene. Ho capito, ma non era inopportuna la cosa? Occasione. Non era inopportuna? No, la... no, ma non è assolutamente inopportuna. Tutti devono avere delle opportunità nella vita. Ma uno bastava leggere le sue affermazioni. Ma scusi, Gasparri, bastava leggere Biancofiore gay e uno non la nominava lì proprio alle pari opportunità, no? Poteva... Cosa ha detto Biancofiore gay? Ma c'è una lunghissima letteratura sulle frasi della Biancofiore sui gay. Beh sì, no, ma contro i gay, non è che ha detto bisogna bruciarli, ha detto sono contro i matrimoni, i bambini. Anch'io sono contro i matrimoni. D'accordo, però bisogna vedere come lo si dice. Scusi, scusi, non è che uno c'ha l'obbligo di essere a favore dei matrimoni tra persone dello stesso sesso o riadozione da parte dei gay, uno ha diritto anche di avere un'opinione diversa. Se no, ma non c'è dubbio, però uno non fa il ministro delle pari opportunità, magari. Ma non è nel programma di governo, giusto? No. Ma guarda, io credo che Bianco Fiore avrà una occasione importante, una donna che abbia 40 anni in un momento in cui può dimostrare capacità, quindi colga l'aspetto positivo di questa vicenda, non rinunciando alle proprie idee. Perché non è che se uno sta alle pari opportunità deve garantire i matrimoni gay, no, o le adozioni quello, da parte no, dei ma gay. Certo, però insomma. Se no c'è il conformismo dell'anticonformismo, per cui è obbligatorio essere. Ma io sono anche d'accordo con lei, non è che bisogna per forza alle pari opportunità essere favorevole ai matrimoni gay, però se l'elenco le frasi che ha detto la Biancofiore sugli omosessuali, anche piuttosto colorite, i bambini sarebbero devastati dall'adozione, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, bastava mettere un'altra persona, no? Bastava mettere un'altra persona. Quando uno assume un incarico di un certo tipo, poi deve evidentemente regolarsi in base alla responsabilità che ha. Credo che potrebbe affermare le stesse idee, casomai uno modula il linguaggio diverso. Quando uno ha un ruolo di governo, ha un ruolo di un certo tipo, deve basta cambiare linguaggio e basta cambiare linguaggio. Lei fa il conduttore di trasmissione radiofonica, si adatta un po' al ruolo che ha, insomma, non è che si mette a fare l'incendiario. Cerca di usare noi per creare polemiche, insomma. No? Lo fa per interposta persona. Senta, però un'altra cosa, qualcuno ha detto ieri che in realtà ci vorrebbe una cosa tipo America, no? Cioè che quando ci sono casi come quelli di Preiti, l'ho detto Sallusti ieri da Santoro, bisogna che la polizia spari. Io ho detto che c'ha ragione Sallusti. Cioè, guardi, no, io su questo devo dire una cosa. Io nei giorni scorsi sono stato a trovare i carabinieri feriti, ho parlato con la giovane figlia Martina, sono molto vicino a lei come sale, forse d'ordine, sono figlio e fratello di carabinieri. Io invece sono rimasto molto colpito dalla professionalità dei nostri carabinieri. Sì, perché immagini la scena, arriva uno su una piazza. In America sparano. E, no, ho capito, ma invece i nostri carabinieri hanno immobilizzato. Vabbè, non era complicato, dai. E allora, no, ma scusi, c'è stata grande professionalità, perché nel momento in cui uno spara, però le faccio la domanda precisa, secondo lei è giusto che come in America si spari, sì o no? È giusta la legittima difesa, quindi non mi sarei affatto meravigliato se avessero sparato. È logico, cioè non sarebbe stato uno scandalo sparare. Ma scusi, ma se uno spara a lei, no, appunto, no, io infatti il diritto di non farsi uccidere, scusi, no, non sarebbe la legittima difesa è legittima, quindi non mi sarei meravigliato se per la legittima difesa avessero sparato uccidendo anche la persona che voleva uccidere, uno che ti spara al collo, alla testa. Oh, mi segnalano, Parenzo, che Gasparri si è un po' sbagliato con la geografia, perché è Monte Bianco, non Monte Rosa. No, sì, ho sbagliato, è Monte Bianco. Monte Bianco. Attenzione. È stato un lapsus. Attenzione. Cioè, anche in francese. E qui alla Zanzara si commettono degli errori senza nemmeno rendersene conto. Sì, ma qui c'è scritto proprio Mont Blanc anche in francese, quindi era volevo mangiare il Mont Blanc, era troppo grosso. Senta, ma Fassina dice che Berlusconi non è adatto a fare non è la figura di garanzia per presiedere questa convenzione, che secondo me non serve assolutamente a nulla questa convenzione. Lei lo sa perché ha fatto carriera Fassina? Perché? Perché un giorno c'è stato un refuso, avevano chiamato Fassino, hanno scritto sul computer Fassina e gli hanno dato un incarico nel PD. Quindi lui è un refuso, quindi sia tranquillo, insomma, a parlare di Berlusconi. Loro nominare Fassino, sbagliarono a scrivere nell'organigramma del partito, scrissero una A al posto della O, come il Monte Bianco al posto del Monte Rosa, un refuso, ed è diventato un dirigente di primo piano, ma volevano nominare Fassino. Cioè lei dice che è una persona di secondo piano, lei dice? Era un refuso, e quindi parla di Berlusconi perché per caso si è trovato in primo piano. Però lasci perdere Berlusconi. Le segnalo, Gasparri, Berlusconi ci vogliono alcune tonnellate di Fassina. Però le segnalo che siete alleati e che Fassina relativamente, insomma. Perché in che senso relativamente? Non mi sento molto alleato di Fassina, ho idee diverse da Fassina. Io sostengo il governo guidato da Letta e da Alfano, poi Fassina, ci sta dietro anche Fassina, ma così per caso dice lei. Non, le sue idee non sono esattamente le mie, vedremo, insomma. No, questo non c'è dubbio. Ma perché al governo secondo lei? Perché gli hanno dato un contentino? Un contentino, sì. Cioè hanno fatto un altro refuso, volevano mettere Fassino e hanno riscritto Fassina un'altra volta. Come hanno messo dei sindaci, no? Hanno messo Del Rio, hanno messo Zanonato, può andarci anche Fassino. C'hanno sto computer che c'ha la lettera O al posto della A, al PD, e hanno scritto l'A. E quello si è trovato al governo. Ma era Fassino, le assicuro. Era Fassino. Lei dice che era Fassino invece di Fassino. Sai quando si fanno gli elenchi nella notte? Ah, mettiamo quello, mettiamo quella. C'è stato il refuso, c'era Fassino che con Del Rio e Zanonato era il terzo sindaco del governo. E dopo dice non potevano più tornare indietro. indietro. Eh no, perché poi la Gazzetta arrivò il comunicato, il sito del governo, a quel punto non potevano tornare indietro. Questo fascina il governo. Però le segnalo che è viceministro, cioè non è una carica da poco, lei non è nessuno, quello è viceministro. Vabbè, lei... sono vicepresidente del Senato, da contesto. Già, quello è vero. Ma io ho fatto anche il ministro nella vita, lo sai per questo. Ma David c'è o no? Certo, che ha fatto, è caduto. Ma l'hai sentita sta cosa di Fassino, Fassina, dell'errore su Fassina? Ormai tu, da quando sei alla RAI, mi sei diventato moderato. Gaspari, la cosa drammatica è questa, che siccome sì, è un venduto, ormai si è talmente immerso in questa cosa della RAI che non mi si scatena più, perché ha paura di dire una cosa sbagliata. I ritratti della Berlinguer di Pianello nella sua stanza, non ha neanche una stanza, lo sgabuzzino mette i ritratti, la gigantografia di Sergio Zavoli, c'è tutte queste cose. Che c'hai? Che fotografia c'hai? Quella di Pianello oppure della... Allora, a parte che sono negli uffici di Endemol... Ma non ce ne frega niente adesso, Endemol, cioè devi fare la solita marchetta a Endemol, allora, non ce n'è bisogno. Bassetti, ti ho detto dove sono. Bassetti, c'è la foto, che c'hai? La foto di Bassetti. Ti ho detto dove sono. Cioè, da una parte la foto, io siccome sono per il governo, cioè, una parte la foto di Gasparri e dall'altra la foto di Fassina, in mezzo Vianello. Mamma mia. Ma metto delle foto più belle, lei la mia almeno. Porta male. Però, ma non la sua, in generale le foto. Mica la sua. È così, portare le foto dei così dei politici vicino al letto non si devono mettere. Faccio come i camionisti, un bel calendario con le ragazze nude. Esatto. Allora, quelli che siedono sui camion. Esatto. Scusi, però lei, Gasparri, lei mi parla di odio nel web, oggi è d'accordo con la Boldrini, questo mi sono stupito, è una cosa pazzesca. No, ho detto anche che però la Boldrini ha scoperto questo runa perché attaccano lei. Io ritengo che le campagne di odio sul web siano inaccettabili, sia se colpiscono la Boldrini, sia che colpiscano altri. Lei dice si è svegliata tardi, io sono di questa idea. Tardi. Io credo che sia difficile, perché conosco bene la materia, è un po' difficile. Cioè, come si fa? Però laddove si possa identificare. Ma se uno vuole fa una denuncia, sì, via. Certo, però è molto complicato. Il problema sa qual è? Che poi spesso sul web ci sono possibilità dell'anonimato, di avere dei nomi di copertura, e uno dietro queste cose dice delle cose. Se adesso io e lei dicessimo delle cose terribili, siamo più facilmente querelati subito. Sulla rete alcuni si possono identificare, molti è molto più difficile, e poi lei capisce. Bene, c'è una grande differenza però, Gasparri, che sulla rete bisogna prenderli e diventano visibili, bisogna notarli e poi qualcuno li rende. No, qual è il problema della rete? La facilità del moltiplicare l'aggressione. Con un clic chiunque può estendere su migliaia di persone, e questo è un problema, capisce? Perché uno se ne può anche fregare. No, a me dispiace una cosa. È brutto la campagna di odio fatta nei confronti di chiunque, a volte hanno linguaggi violenti. Comunque le voglio ricordare, al di là del sono web, in imbarazzo, Cruciani, che lei, in imbarazzo. Che lei è al governo anche con la Bonino, eutanasia, radicali. La Bonino mica deve fare l'eutanasia o altre cose, perché se il governo proponesse l'eutanasia io mi stendo sui banconi del governo e blocco il governo. La Bonino farà il ministro degli esteri, vediamo come lo farà. Conosco Emma da tanti anni, ovviamente su tutte le tesi di Emma e dei radicali, legalizzazione delle droghe, eutanasia. Lei si stende sui banchi del governo. Assolutamente contrario, e su questo se il governo non lo proporrà, ma dovesse proporre cose del genere, io non è che non voto il governo, ma faccio l'ostruzionismo al governo, ma il governo non proporrà queste cose. Cioè né eutanasia, né legalizzazione droghe, nel paese, né matrimoni gay. Molti di noi siamo contrari, altri hanno altre idee, e questo è il dibattito. Non è il governo che si farà carico di queste tesi. Parenzo, sono che preoccupato perché? Sulla questione del web la penso esattamente come Gasparri. E perché sei preoccupato? Opinione? Non ho capito. Perché posso cambiare opinione? No, perché io lo so perché tu lo pensi così. Perché a te ti... Vuole fare carriera alla RAI. Un po' perché vuole fare carriera. No, ho detto purtroppo che sono d'accordo con te. Quindi questo è il problema. Ma non ho capito. Io non è che sono contrario al fatto che ci siano delle persone che possono denunciare. Ha ragione Gasparri. Vuole dirlo, ma ha ragione Gasparri. Ma scusa, ma lo sai quante minacce ricevo io su web, Parenzo? Lo sai quante minacce ricevo io? Bravo coglione che non denunci. Bravo coglione che non denunci. Denunciare, ma chi denuncio? Allora, chi? Guarda, dai, io dico una cosa, io a volte sono anche contrario a enfatizzare, oppure dicevo tutti i giorni lodi, insulti, applausi e minacce, dai. Anche minacce di morte. Però quando le cose diventano delle vere e proprie campagne di odio, lì c'è un problema. Ma le campagne è un'altra cosa, che c'è un sito che fa una campagna contro Gasparri dicendo le peggiori nefandezze, lei denuncia questo sito, poi punto e basta. Qual è il problema di internet? Che le cose restano per tutta la vita. E allora esatto. Succede che un parente, un familiare, un amico, dopo 10 anni trova cose diffamatorie e il web è eterno, e questo è un problema serio, capisci? Ma perché lei ha fatto quel dito medio? Perché io volevo uscire dall'ingresso principale, non ho fatto come Fassina e altri uscire dall'ingresso secondario. Il giorno prima mi sono fermato con i manifestanti di destra, di centro e di sinistra a parlare, chi mi applaudiva e chi mi criticava. Il giorno dopo che Grillo ha detto marcia su Roma, c'era un clima astioso, volevo passare dove c'erano queste persone, la polizia me lo ha impedito, però non si fa, su. A scopo precauzionale, dicendo guardi non vada là, e sono stato costretto a cambiare strada contro il mio volere. Io non cambio mai strada, ma ho capito che la polizia era preoccupata, che il clima era diciamo acceso, e quindi succedeva un parapiglia. A quel punto questi insultavano terrorista, mafioso, delinquente. Io volevo andare a discutere con questi, la polizia ha detto non ci vada. A quel punto, impedito di confrontarmi con quelli che mi davano degli epiteti, e che voleva fare, che voleva dire a quelli, una reazione un po', volevo dirgli che dessero del terrorista, del mafioso e del ladro a chi è terrorista, mafioso e ladro, non certo a me, mi possono criticare. Ma se andava lì la menavano, Gasparri. Ma per questo la polizia non mi ci ha fatto avvicinare, erano 200-300, ma avrebbero facilmente riempito di botte. Ma perché anche qui ha fatto bene. A quel punto ho reagito con ha fatto bene a fare il dito medio, Parenzo? Ha fatto bene, io c'ero, quel giorno lì c'ero. A quel punto capisce bene che uno non può subire insulti non potendo discutere con chi ti insulta. Ma non c'è dubbio. Io poi non volevo cambiare strada, la polizia per motivi di ordine pubblico ha detto, e li capiscono, se io passavo in mezzo a quei 200 in quel momento, succedeva in parapiglia, non c'è dubbio. Ma Grillo ha armato Preiti, secondo lei? Grillo ha fomentato una discussione insana, non ha armato Preito, però Preiti, ha alimentato lui e la sua gente un modo assurdo. Ha visto la storia del professor Becchieri, che poi è dissociato da noi, da quello che ha detto, da voi Grillo e gli altri hanno scomunicato, molti parlamentari hanno usato linguaggi inappropriati. Cioè Becchi è un cattivo maestro, secondo lei? Grillo una cattiva persona. Non è maestro, è astioso nel linguaggio, è violento e a volte forse non valuta appieno la ricaduta che può avere il suo dire nel momento in cui gode di un consenso. Becchi che è, secondo lei? Ma Becchi è un personaggio strano, io non so dove l'hanno beccato Becchi. L'abbiamo scoperto, lo sai chi l'ha scoperto? Non so chi è il primo, chi l'ha beccato, se siete stati voi, se è stato lei Cruciani. Cioè è stato veramente un crimine contro l'umanità valorizzare Becchi, non so che sia, a nome di chi parli, e parla in maniera strana. Pensi che un giorno dopo le elezioni hanno pure pubblicato due colonne sul Corriere della Sera, che dovrebbe sulla essere prorogazio, sulla prorogazio. Dovrebbe essere un po' più selettivo il Corriere della Sera sui finché parla di prorogazio, finché parla di prorogazio. Ho capito, ma guardi, io in questo sono un po' lombrosiano, a volte vedo le facce. Sa cosa disse Flaiano una volta? Guardi che lo dico anche di lei, Sa cosa ha detto Flaiano? Flaiano è una citazione corretta, Ennio Flaiano. Non mi spaventano le loro idee, mi terrorizzano le loro facce. Lo sa che lo dicono Flaiano. Anche di lei, Lo dicono anche di lei, però. Lo posso dire anche di me, io lo dico di Becchi citando Flaiano. La differenza è che io lo dico citando Flaiano, quelli che lo dicono di me non sanno né chi è Manzoni, né chi è Flaiano e neanche chi è Cruciani. Vabbè, ma scusa, secondo lei, guardando in faccia Becchi, uno che cosa pensa? Cambia canale, cambia giornale, dice, ma questo avvisa i parenti, cioè lo scienziato pazzo, dice lei. Io parlerei con i familiari, scusate, insomma, che dovete fare, farei una telefonata garbata ai parenti. Comunque la questione Becchi in realtà è piuttosto controversa, perché devi sapere, Parenzo, che l'ha scoperto in realtà per la prima volta, l'ha portato in televisione Andrea Vianello ad Agora. Ma non faccia parlare male di Parenzo, di Andrea Vianello, lui deve avere il contratto. No, ma io ne parlo benissimo, il contratto l'ha già firmato. Vianello è bravo. Bravissimo. Allora... Molto bravo, ha visto come ha detto Parenzo, molto bravo. Certo, ha subito calcato la mano. Mi dispiace condividere anche qui il suo... È il peggiore lecchino. Lei non ha conosciuto Parenzo. Parenzo è, con chi lo paga, particolarmente Parenzo servile. È un maggiordomo, veramente. È una cosa pazzesca. Nel PDL ci starebbe bene, nel PDL starebbe benissimo. Ma te ti mando a far culo un giorno sì e l'altro pure. Scusa, Parenzo, un po' di orgoglio, rialzi la testa. Senta, Gasparri, ma ci racconti di questo scherzo con Tremonti di cui si parla, che riguarda la Zanzara, è vero o no? No, sì, non è... Io giorni fa, mentre si reggeva il Presidente della Repubblica, ho telefonato a Giulio Tremonti perché gli dovevo dire una cosa. Sì. E gli ho detto, ciao Giulio, sono Maurizio, poi la mia voce è abbastanza roca, si riconosce. Sì. Dico, ti devo dire, qui dobbiamo votare Prodi perché è proprio un'idea eccezionale. E lui mi ha detto, basta, voi con Margherita Hack, con queste robe, mi ha attaccato il telefono, poi l'ho richiamato, guarda che sono io davvero, Prodi non lo votiamo, Prodi a noi ci fa orrore, gli ho detto, stai tranquillo. Cioè, lì per lì ha avuto la reazione, perché ho detto questa cosa, no, ma l'ho fatto sta battuta, vieni qua che dobbiamo votare Prodi, no? Sì. Quello pensava che fosse uno scherzo, non ha detto la Zanzara, ha detto ah, basta, voi Margherita. Sì, vabbè, la Zanzara voleva dire, sì. Certo. E preso mi ha attaccato il telefono, Giulio. Ma ormai, quindi, ormai è una sindrome pazzesca. Zanonato, sì. Zanonato, l'altro no, giorno. Ecco, fammelo, ce l'ho io il messaggio di Zanonato. Leggi questa cosa di Zanonato. Il nuovo ministro allo sviluppo economico, aperta parentesi, bravissimo ministro, oddio, e bravissimo sindaco. Amico tuo di Padova, non rompere i coglioni, su, dai. Chiusa parentesi. L'altro giorno mi ha mandato un messaggio e mi ha detto, mi ha telefonato Bersani e mi ha detto, ti chiamerà Letta. Sì, sì. Ti vogliamo fare ministro. E lui gli ha risposto con una certa freddezza, gli ha quasi detto vabbè, sì, ciao, grazie, arrivederci. Perché Zanonato aveva un senso del limite. Che no, perché pensava fossi... Pensava fossi io, infatti poi ha mandato un messaggino a Bersani dicendo sai io sono amico di Parenzo, quello che fa gli scherzi telefonici, e sei davvero tu, davvero mi vuoi far fare il ministro? E Bersani ha detto sì certo sono io. Ma roba da Zanonato, perché Zanonato era meravigliato giustamente, dice ministro io. Perché era meravigliato? Perché così scherzo anche io. Sì, vabbè scherzo. Il peggior ministro di questo governo chi è? E ancora non lo sappiamo. Così a occhio il peggior no perché mi deve fare lì? Non lo so, guardi, non mi viene in mente, ci sono alcuni che non conosco, questo lo Trigilia non Trigilia. So che sarà un genio, vediamo alla prova. Quindi non lo conosco, si rischia di tragedia. Intanto stanno giurando ah, c'è giurando? Il ministro dell'integrazione, ottima scelta, lo dica Gaspari, ministro dell'integrazione, ottima scelta. Ma guardi, no, io o se ne poteva fare a meno. Io non ho pregiudizi verso nessuno. Se quando dicono che la Lorenzin è inesperta perché c'ha 40 anni, si potrà dire pure del ministro dell'integrazione che è inesperta, però se uno lo dice da Lorenzin lo può dire, se uno lo dice dal ministro dell'integrazione, se uno si limita a dire che è inesperta, vediamo, no, se uno ci mette il carico da 90, no. Io le dico che per esempio sono contrario allo ius soli, cioè alla cittadinanza automatica, perché quello è legittimo, sia che lo dica uno che è nato a Belletri, sia che lo dica uno che è nato in Nuova Zelanda, sarà pure un... se no poi si fa il razzismo alla rovescia. Se la Roma vince la Coppa Italia che fa lei? Si spoglia? Fa... No, ma se mi spoglio, abbraccio D'Alema se viene allo stadio. Abbraccia D'Alema? Se è il massimo che posso fare di trasgressione. Cioè, se abbraccio Cicchito e D'Alema. No, Cicchito, vabbè, Cicchito, lasciamo perdere, lei lo abbraccia comunque. Cioè, questa è bellissima questa cosa. Se vince la Roma la Coppa Italia e se D'Alema viene allo stadio lo abbraccio. A presto, vabbè, grazie. Però sobriamente, perché D'Alema non è uno da effusioni. No, è vero, da un piccolo bacettino, diciamo. D'Alemiano, con bacio D'Alemiano sulla guancia? Correggete il refuso di Fassina, quelli avevano detto Fassino, è già la seconda domani volta. Domani facciamo tutto. Ciao, grazie. Vabbè, ciao. Zanzara! Correggete il refuso di Fassina, quelli avevano detto Fassino, è già la seconda volta. Ruggisce tutta la notte. Dottore, una parola, dottore, ho l'occasione di dirvi questo, fatemelo dire. Che mi graffia tutto. Dai, Parenzo, vai, ma non ti mando neanche a cagare che è una novità. Stai stitico. Ma che mondo è questo ormai, che cosa sei riuscito a trasformarlo? Stai stitico. Vuoi vedermi? Da Roma, buonasera Marco. Di quanto tempo? Noi siamo una vecchia conoscenza, sono una vecchia conoscenza neo borboni, ogni tanto ho il piacere di richiamare e di ascoltarvi. Mamma mia, neo borboni. Ah, ecco, bene. Infatti voi già vi scaldate, questo mi piace. Ci mancavano. Ci mancavano. Chiamavo per fare delle cose su Grillo, ma sentendo le cagate che escono dalla mente dei padani, allora purtroppo devo cambiare tema, devo parlare praticamente di quella merdaccia umana che è Boso, oppure quell'altro pazzo, insomma, che hanno rivolto il meglio della, che la loro mente può produrre verso il ministro dell'integrazione. Sì, insomma, sì, allora... Ecco, sì, allora quindi praticamente io volevo dirvi... Ma io non capisco, tra l'altro, scusi Marco, sì. Dopo la faccio parlare, la faccio dire quello che vuole, anche le peggiori nefandezze dei leghisti che sono intervenuti qui alla Zanzara nei giorni scorsi. E a me mi fa impazzire che oggi si apre la discussione, una discussione inutile, sulla violenza nel web, perché la signora Boldrini presidente della Camera, si è accorta improvvisamente che c'è un problema. A parte che secondo me il problema non esiste. Si apre. Sì, come no, ma lei... Ma che dici? Ma non è che si apre, si pone tutta la discussione, cosa fare... Ma si fare, discute cosa... da un sacco di tempo, ciclicamente si discute, ragazzi, di questa cosa, ma che dici? Io sono insultato ogni dici? Giorno sul web, ma che dici? Ma chi se ne frega di Cruciani? Qui stiamo parlando... Ma perché, capito, valgo di meno della Boldrini? Non ho no, capito, valgo di meno ritieni, della Boldrini? Vuoi scommettere che piglio più voti della Boldrini io se mi presento alla elezione? Se tu ritieni di essere oggetto di insulti di una campagna... A te non interessa, io l'ho fatto, ho denunziato un sito assieme a altri, questo sito è stato chiuso, ciclicamente si ripropone questa cosa, se tu ritieni che sul web si possa scrivere di tutto e di più, lo ritieni solo benissimo, non denunciare nessuno, ma non rompere i coglioni a chi ogni tanto si pone la questione della violenza, del fatto della responsabilità, per cui non è che siccome ti nascondi dietro un nickname e scrivi su quella piazza virtuale, allora tutto oddio è lecito. Che paura. Oddio che paura, oddio che paura, paura che... oddio che paura, oddio che paura, oddio che paura, il nickname. Uno se vuole prende queste robe, le segnala alla polizia, punto e basta, senza fare, quello... chiacchiere, cose, il problema web, e il web, il problema del web, ma dai, su, dai. È una questione che esiste, se non dai, te la dai, è dai, una... dai, dai, dai un cazzo, è una questione dai, che invece esiste. Su, dai, dai, dai, dai, dai, il problema. Il problema del web, il problema di internet. Sei talmente narciso che ti piace anche quando ti dicono pezzo di merda. A me se me lo dicono alla radio e mi pagano, dai, sono su. Contento. Ma se me lo dice uno che non mi paga. Ma evidentemente ma non ci vai denuncio. Su web, non hai manco il tempo, non hai anche il tempo di andare su web perché ci te vado, ne dicono. Ma me ne te ne dico, allora te ne fotti, giustamente no, te ne fotti. No, non me ne fotto più quando c'è una dai. Quando come nel caso del il problema del web, dai, c'è su, una cosa patetica, web. Dai, certo su. Che c'è. Una cosa patetica, certo dai. E subito la procura, siccome leggono Repubblica la mattina, fanno sfogliano il gioco, sentiamo ma che dice procura? Il presidente della Camera, apriamo un fascicolo, ma dai su, cioè, quando dai. Sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro, no, speriamo di no. Ivana da Roma, buonasera. Ivana, cioè, quelli gli scrivono a lei. Ivana, sì, pronto, eccoci qui, che vogliamo eccoci fare qui. Che vogliamo... Allora volevo commentare il commentare di... sì di Sallusti, ottimo Sallusti, ecco. Sì. Ecco, appunto, sì. E tra l'altro Cruciani, che, sì. Che sarebbe lei, sì, le dà anche ragione a Sallusti. Sì, quando allora dice, dico, quando dice Cruciani che è andata bene a Preiti perché in America lo avrebbero crivellato di colpi, io lo penso ecco, così. Crivellato di colpi, allora sì, io dico che in America crivellato. Crivellano di colpi anche alunni che stanno a scuola a fare lezione. Crivellano di colpi un fratello, uccide la sorellina. Ma questo che c'entra? Mica in ho detto America, che bisogna, allora, mica ho detto che è giusto crivellare. Se a voi vi piace tanto la mamma mia, che noia, che noia, che noia, che noia, veramente questo è un concetto molto molto normale. Sì, noi non ho capito. Per rispondere con Ivana, il fuoco, abbia il pazienza, io la penso così. Lei mi vuole ammazzare per questo? Mi vuole uccidere? Mi vuole no, espellere no, dal consesso dico, civile? Le no, dico che se lei le piace tanto i poliziotti americani, che ma a me non mi piacciono in assoluto. Vai tranquillo in America, ma che c'entra? Vai in America, io sto dicendo almeno che in altri paesi. Vabbè, d'accordo, lei si vuole liberare di Sallusti e Cruciani, va benissimo, Ivana, per carità, è nel suo diritto dirlo e pensarlo. Il problema no, è diverso, non è se io penso pensare che i poliziotti devono crivellare di allora che facciamo? Ma non è qui che ci vogliamo voglio... tutti di qualche pistola, andiamo in giro, ci facciamo io sono contro il fatto la che la guerra tra noi, no? No, sono contro, per esempio, il fatto che in America è così facile procurarsi le armi, su questo. Però così, no, avete ma... detto, avete detto se era in America, avrebbero risposto crivellando i colpi. Come rispose quel io non mi ricordo perché non mi intendo di allora, facciamo risentire Sallusti un attimo, fatemi sentire Sallusti. Fu un poliziotto che allora dice quel povero Ivana, che Ivana, allo stadio, sì, no? Sì, va bene. Ivana, allora che facciamo? Secondo me ha ragione Sallusti quando dice che Preiti se l'è cavata bene, perché in altri paesi chi attenta alla vita o comunque chi nei dintorni di un palazzo del potere prende una pistola e si avventa contro qualcuno viene crivellato di colpi. Ora non è che la parola crivellato deve far insorgere i sepolcri imbiancati come il signor Parenzo. Oddio, dici la parola crivellato di colpi? colpi, usi queste parole di sangue, noi non siamo così, dico quello che è, cioè dico la realtà. Ho detto che per fortuna Sallusti non fa il questore intanto, ma primo. Cosa vuol dire? Mica vuole fare il questore, imbecille, non dai, fa il questore su. E quindi non dà lui gli ordini alla polizia. Ma cosa c'entra? Cosa di moderare fare, i toni fortuna. Anche lei un pochino, perché io la sento tutte le sere. Non si può essere sempre fuori tono in tutto. Le faccio risentire Sallusti intanto. Quel signore gli va bene, gli è andata bene una cosa, quel signore, che siamo in Italia. Perché se fossimo stati in America, ma credo in qualsiasi altro paese del mondo, al secondo sparo sarebbe stato... Sarebbe stato crivellato. Sarebbe stato crivellato. Roberto dalla provincia crivellato di Lecco, grazie bello, Ivana, grazie. Bella cosa, no? Ma non ho detto che bella cosa, è un dato di fatto. Sentire, non ho detto che è bello. Uno che viene crivellato, ma non ho detto che è bello, non ho detto che è bello, è un dato no, di fatto. Detto che però se fosse successo in America sarebbe stato crivellato. Sì, e allora che ho detto allora che è bello? Bene. Allora io dico a Sallusti di andare in America e pure. Vabbè, bene, abbiamo capito. Roberto dalla provincia di Lecco. Buonasera a tutti. Dica. Io telefono, vi ascolto tutte le sere e tutta la settimana si sta parlando del carabiniere che è stato ferito, se è giusto, che ha sparato, eccetera. Per la mia esperienza personale, essendo io una persona che il 1980, il 2 agosto, mi trovavo in stazione a Bologna e sono rimasto sotto le macerie nell'attentato terroristico famoso, con 85 morti e 200 feriti. Sì, lei è un sopravvissuto alla strage di Bologna. Esatto. Sì, scusi, qual è il legame tra queste cose? Il legame è che nessuno si può permettere di sparare a un'altra persona, sì, perché quando i riflettori saranno spenti... Roberto, questo nessuno l'ha messo in dubbio però, che sia sbagliato. No, certo, però voglio dire, è aberrante pensare che qualsiasi manifestazione di disagio si debba poi andare a sfociare in un prendere una pistola, fare del male a qualunque essere umano, perché quel carabiniere, quando si saranno spente le luci, dovrà affrontare una durissima realtà con quello che saranno le conseguenze di quest'atto criminale. Perché lui resterà da solo, si spegneranno i settori. Però Roberto, scusi un attimo, è abbastanza normale che sia così, cioè è normale quello che dice lei, cioè sì, la colpa è di chi spara, dopodiché? Dopodiché deve uscire proprio dalla mentalità dell'essere umano, che uno fa una protesta, cioè sento persone che quasi giustifichino che uno vada a sparare perché ha un disagio sociale. Ah, ecco, se c'è un disagio sociale esistono delle strutture, esistono gli psicologi, esistono... Altrimenti se uno proprio vuole, è disperato, eccetera, eccetera, beh, invece di ammazzare uno o comunque di ferire gravemente uno e rovinare le famiglie, eccetera, eccetera, qual è la soluzione, Parenzo? Qual è la soluzione in questo caso? Sì, vabbè, mia nonna in carriola, ciao. Finalmente abbiamo una ministra di colore per la prima volta nella storia della Repubblica, ministra all'integrazione, mettitela via. Ma scusa, mettitela un cazzo te, mettitela via. Come puoi dire tu una cosa del genere quando non sai nemmeno come ha fatto questa arrivare in Italia? Perché per te non è stato giusto fare un ministro di colore? Ma perché non è una persona che può dare una garanzia di come è arrivata in Italia? Ce lo spieghi la signora come ha fatto arrivare in Italia? Ma sarà arrivata attraverso una borsa di studio, che ne so, è diventato... Ma chi te l'ha detto? Ma com'è arrivata? Con i barconi, com'è arrivata secondo te? Ah beh, per conto mio ci sarà sempre stato il solito gioco della Caritas. A casa mia. Ma io sono razzista, non mica mai negato di essere razzista, stronzo. Vabbè, Erminio, non mica mai negato io. Cioè, tu non ti faresti curare perché è di colore, cioè ti dà fastidio il fatto no, che... perché è una strana a casa mia, io dagli estranei non mi faccio curare. Ma sei ancora a casa, Simo? Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Quando il giorno scivola via, si svegliano per me, quando tutto sembra poesia, la cruda verità. E io sono, no, non sono d'accordo sui matrimoni gay. Sono d'accordo che uno possa ovviamente avere una relazione, che debbano essere riconosciute le unioni civili, questo sì, però il matrimonio è quello basato su un uomo, una donna, la famiglia è cristiana e cattolica, io sono così, sono cattolica, quindi c'è poco da fare, insomma. Però devo dire la verità, sentendo questa cosa qui, non è che abbia detto delle cose scandalose, eh? Cioè, ha detto di essere a favore delle unioni gay, ma non del matrimonio. Dunque, qual è la polemica? La polemica è per alcuni eccessi, alcune frasi sulla... No, ma il tema... Sì, il tema è un altro che tu vuoi eludere e riguarda lei, riguarda ad esempio il sottosegretario allo sviluppo economico, riguarda, cioè, riguarda, quale, tante, riguarda tante personalità che sono state messe lì, perché chiaramente alcune cose non si faranno mai, come sulla giustizia ad esempio, cioè vengono messi dei presidi berlusconiani apposta. Guarda che lo sviluppo economico, lo sviluppo economico è Zanonato, ti faccio, ti segnalo. No, il ministro è Zanonato, il ministro, stai tranquillo, il ministro è Zanonato. Ma che c'entra i presidi berlusconiani? Gli altri saranno i presidi del PD, ma che vuol dire i presidi berlusconiani? Ma che stracazzo c'entra? Ognuno ha puntellato, ognuno presidi ha del puntellato. PDL, alcuni sono presidi, gli altri invece sono presidi di libertà, ma dico, ma che sei scemo? No, no, non ho detto questo, arrogantello, ho detto semplicemente che siccome ci è un governo di coalizione che deve tenere insieme PD e PDL, appunto, il PDL ci mette chi vuole, il PD ci mette chi vuole, quello sicuramente. Alcune cose non si faranno mai, quindi non si farà mai, ma stiamo dicendo delle cose ovvie, ma le unioni gay, la legge sul conflitto di interessi, non si faranno mai leggi. Non si, stiamo però dicendo che le persone che sono state messe lì in quota PDL sono state messe lì apposta per salvaguardare questo, cioè che non si facciano cose che vadano troppo contro quello che è il pensiero berlusconiano. Ma che è normale, ma che sia berlusconiano, così. Quindi, ma anche dall'altra parte, ho capito, ma non è la Biancofiore è messa là esattamente per dire. Scusami, la Biancofiore è stata messa là esattamente per dire no alle nozze gay, ma non no credo alle che adozioni, sia così. No alle adozioni, perché non è nel programma. Senti nel cosa programma diceva a un certo punto, i gay purtroppo sono estremamente comuni, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, adesso lo recuperiamo. Paolo da Pisa, buonasera Paolo. Paolo da buonasera. Pisa. Buonasera. Non capisco di cosa ti stupisci. Sì, ma non è che ci sono solo i presidi berlusconiani, cioè, ci sono anche gli altri che sono messi lì, certo, per impedire che che vengano approvate delle cose. Su, dai. Ora stavamo parlando del caso Biancofiore, infatti, sì, non sì, di altro. Paolo quando da poi Pisa. parliamo di altro. Paolo da Pisa, buonasera. Buonasera. Infatti la legge sullo ius soli non si farà mai, purtroppo. Paolo da Pisa, buonasera. Buonasera. Meno male, dico io. Paolo, dica. No, perché tu sei un reazionario. Ma... Ah, perché essere contro la legge sullo ius soli è da reazionari, sì. In Francia, mi pare che ci siano governi, essere, che loro propose un governo essere, di destra. Essere contro la legge, guarda, sullo ius. Guarda Jovanotto, vabbè, che in Francia fu il ministro. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Quando tu non hai argomenti, liquidi tutto con chi se ne frega. Ma chi se ne frega? Non è che la sappia sia un coglione che non è che la Francia sia, non è che la Francia sia sempre un esempio, eh? In Francia, sì, beh, di civiltà si qui in alcuni casi, sì, sicuro, vabbè, in Francia luoghi comuni. Un governo di centrodestra guidato da Sarkozy, soliti luoghi comuni, fu il primo a mettere un ministro per l'integrazione, Paolo da Pisa, vabbè, quello Paolo che c'entra, il ministro di colore, è quello che nessuno lo contesta. Paolo da Pisa, pronto? Vada, ce la farò. Allora, no, mi rilasciavo al discorso che è stato fatto ieri da un certo signor Rizzo ed oggi da Toscani. Rimango senza parole quando la gente parla del povero disgraziato. Se c'era un disgraziato era il carabiniere. Bravo. Abbiamo perso proprio il senso della misura. Bravo. Nelle parole e nei concetti. Uno ha sbagliato, deve pagare, punto e basta. Il povero, ci sono non esistono attenuanti. O si fa bene o si fa male. Il disgraziato era il carabiniere che tutti i giorni andava a lavorare e si guadagnava il suo stipendio. Non la gente che chiacchiera, perché uno che va al mercato nero e compra la pistola, se la tiene 4 anni, poi decidi di fare il gesto eclatante, questa storia di gesti eclatanti, come se cancellassero e uno si redime in anima. È un'assurdità. Abbiamo perso il senso della misura. Applausi, applausi per Paolo. Vogliamo fare un applauso a Paolo? Per Paolo. No, glielo faccio volentieri, perché veramente bisogna trovare un applauso un po' più prolungato, diciamo. Lo voglio un po' più forte come applauso. No, adesso le faccio sentire Santoro invece cosa ha detto ieri sera, signor Santoro. No, per favore, no. No, vabbè, che c'è? Santoro dice un sacco di cose, alcune contestabili, altre meno, bisogna vedere da chi le analizza. Non giustifico la violenza, ma capire la disperazione. Ecco, la parola disperazione accanto a uno che ha sparato in testa un carabiniere non c'entra nulla. Anch'io non giustifico in nessun modo la violenza. Penso però che la disperazione, il senso di solitudine e la depressione non si cancellano con una condanna morale. Vanno attentamente valutati. Alessandro da Latina, buonasera. Scusami, buonasera. Dica. Voglio agganciare al discorso che ha detto poco fa il telespettatore che ha parlato adesso. Praticamente è quella persona lì che è andata a sparare lì in piazza. Non è una persona qualsiasi, un ragazzo, un esaltato, un coso. Quella è un ex padre di famiglia che si è mangiato tutto giocando e non lo voglio mettere in dubbio. Però di quella gente lì, che no che va a sparare, di quella gente che lì che non c'è, che non gliela fa più, ce ne stanno tantissime. Poi quando senti delle cose che ti caricano, che il signor, quello che fa Radio Londra lì, che prende lo stipendio dal giornale e più prende 1000 euro a puntata, e qui per guadagnare 1500 euro devi fare 16.000 chilometri al mese. Ma che c'entra? Oppure, sono mestieri diversi, no, io, Alessandro. Oppure sentire Parenzo. Ma lei che fa, il camionista? Faccio l'autista, sì. L'autista. E sentire Parenzo che si compra il formaggio da 100 euro al chilo, ma quando gli levano i cosi al Sole 24 Ore, gli levano i cosi dei giornali. Ma che levano? Ma non è mai. Ma non levano, lo dico io, per ma non levano niente. Ma lei ha sentito la propaganda ridicola di Grillo sui soldi che vengono dati ai giornali? Ovviamente ha ragione sui soldi dati ai giornali di partito, ma noi non c'entriamo niente. Ci sono dei contributi dati, ripeto per l'ennesima volta, agli abbonamenti, alle spedizioni, alla carta, che valgono per tutti i giornali. Se vogliamo togliamoli, non è un problema, ma valgono come qualsiasi altra agevolazione alle imprese che c'è in Italia, in questo caso un'impresa editoriale. Se vogliamo togliamoli. Io non sono pagato dallo Stato, ha capito Alessandro? Io lo so che l'hanno pagato, allora, pagato 24 ore, però io voglio dire una cosa, di quella gente lì che non sono ragazzi, sono gente che ha padri di famiglia, che hanno dei figli, che ce ne sono a bizzeffe di quella gente ma lì. Ma non è che non vanno a sparare, non vanno a sparare in testa ai carabinieri. Ha sbagliato e basta, perché i carabinieri non c'entrano niente, i carabinieri non c'entrano assolutamente nulla. E allora? Ha capito? Il discorso che ti porta alla disperazione farlo. Quando non c'hai da portare a tavola da mangiare per i bambini, ti porta a fare delle cose che non aveva mai fatto. E se non cambia qualcosa, fra 4-5 mesi ci si arriverà. Glielo dico io, ci si arriverà perché c'è la disperazione. Glielo dico io, c'è la disperazione. Ma quale? E spariscono gli eroi, se la guerra poi adesso cominciamo a farla noi, non sorridere, gli spari sopra sono per voi. Quella frase che mi viene attribuita, riportata, è avvenuta durante una trasmissione radiofonica, La Zanzara, e non è riportata correttamente, perché se voi trovate la registrazione di quel brevissimo intervento fatto alla televisione, alla radio, sto parlando in maniera scherzosa, sto dicendo, sto scherzando ovviamente, però poi non lamentiamoci se la situazione è peggiore, se poi qualcheduno pensa di prendere i fucili o qualcosa del genere. Quindi dove sarebbe lo scherzo? Mi preoccupa che lei invece di chiarire insomma il suo pensiero in qualche maniera lo rinneghi, lo butti in vacca, perché non è un'espressione che può essere considerata scherzosa questa qui. Scusi, la può aver detta con tono scherzoso. Su questa ha ragione perfettamente Santoro, non è che uno dice se nominano un ministro dell'economia allora non ci stupiamo se qualcuno prende i fucili e poi dice sì però stavo scherzando, che vuol dire? Cioè, certo, non è che si scherza in questo modo. La solita cosa che quando uno si accorge di aver detto una sciocchezza dice no ma l'ho detto per scherzo. Ancora Becchi, non ho detto una cosa incredibile, tra l'altro poi torna su questa cosa smentendo se stesso. Esatto. non mi pare di aver detto una cosa incredibile in quella battuta che ho fatto. Cioè, dicevo, attenzione, perché se continuiamo in questo modo, i rischi di azioni violente ci saranno. E infine, questa mattina, beh, allora togliamo lo scherzo, va, togliamo la parola, stavo scherzando. Se nella mia espressione, diciamo la zanzara, ho detto sto scherzando perché si trattava di una cosa così ironica, eccetera, direi che adesso scriverei la stessa cosa togliendo sto scherzando. Quindi semmai, più che ritrattare, non solo riconfermo, ma lo dico ancora più esplicitamente, che se le cose continuano in questi... C'è la Mussolini che le vuole rispondere. No, io sto dicendo semplicemente che se le cose continuano in questo modo nel nostro paese, non si possono escludere azioni di violenza, perché il popolo ha diritto ma a resistere. Questo Mussolini, Becchi, questo sta dicendo. Il diritto di resistenza. Il diritto di resistenza. Bruno Vespa elogia la zanzara. Questo l'ho sentito. Sentiamo. Il professor Paolo Becchi, intervistato da quei bravissimi e perfidi conduttori della Zanzara su Radio 24, dove si cerca sempre di cogliere in fallo e quasi sempre ci si riesce, sentiamo che cosa ha detto. Ancora Vespa su di noi, eh? Bravo Vespa, mi piace. La Zanzara ha incastrato anche una persona abitualmente prudente come Pasquale Cascella, che fino a ieri era il portavoce di Napolitano e poi, pensando che il settennato fosse finito, si è candidato a sindaco di Barletta. Che dice Cascella? Vabbè, ci siamo sprodolati un po' addosso, in questi ultimi 5 minuti, però ne valeva la pena. Dove andiamo? No, bravo, però Vespa, devo dire, è sempre stato un bravo giornalista, è bravo. Siamo in collegamento con Alessandro Cecchi Paone. Evviva, come state? Bene, ecco. Come stai con il nuovo fidanzato? Pure ti fai fotografare ovunque, una cosa pazzesca, dai. Ma non è una cosa pazzesca, è normale, no? Finché anche gli omosessuali non si fanno vedere con i loro fidanzati e i loro compagni, che in Italia non possono essere mariti, sembra sempre che siano dei poveri disgraziati che vivono da soli, non è così. Cioè, in che senso? È giusto, è giusto farsi vedere e farsi fotografare, dici tu? No, è normale che se uno ti fotografa poi esca fuori, se no sembra che siamo dei monaci che vivono da soli e tu guarda che gli altri non, apparentemente, tranne chi è giusto avendola e la concia, gli altri apparentemente poveretti vivono in assoluta monacale castità. Ma no, figuriamo, perché scusa, però mi togli una curiosità. Sai cos'è però, Cruciani? Dimmi. Che ogni volta che sentiamo il grande Cecchi Paone che saluto, ogni volta salta fuori sempre un frocio nuovo. No, cioè, ogni volta in che senso, viene sempre data notizia di un nuovo omosessuale. Ogni volta dice scusa, ma allora quello? Sì, quello sicuro. No, ogni questa volta no. Questa No, questa volta no. Questa volta no. Non c'è da dare notizia di nessuno. Al governo, ad esempio, al governo c'è qualche omosessuale, Cecchi, al governo? Che io sappia no, ma sai che in Italia è evidente che per fare carriera devi ufficialmente essere cattolico, eterosessuale e maschio. E no, quindi, ma è esattamente come vedi... il contrario invece. Ma no, ma non devi dirlo, ma non devi dirlo. No. È esattamente il contrario, perché come disse una volta Marco Pannella, prima di mettersi il codino in testa, una volta a essere froci si veniva massacrati sul litorale di Ostia come Pasolini, ora invece si diventa presidente della Puglia, disse Pannella. Ma non ci sono, non ci sono altri esempi, è stato probabilmente una svista. Adesso poi è successo con la Sicilia, ma insomma dai, al governo secondo me è confermato quello che ti ho detto, maschi, anzianotti e cattolici. Scusami un attimo, Alessandro, ma perché ogni volta, cioè perché ti piacciono così giovani? È una curiosità, per carità. Perché a te piacciono vecchie, scusami. C'ha ragione. No, vabbè, che c'entra, però sempre giovani, una volta ci sarà uno della tua età. Io sono tutto. un po' MILF. No, ma io per carità, se ti ricordi Harold and Maude, per cui ci sono anche coloro che amano le persone di grande età avanzata. Però da un po' di anni stai sempre con persone molto giovani, diciamo ma la verità. Ma sì, perché mi tengono giovane. Ti tengono giovane, Ma ci sarà, sarà questo, chissà. Ma te scusa, perché a te piacciono le donne? No, piane, ma per carità, ma non c'è, ma non c'è problema, figuriamoci, è una curiosità. Che... No, è normale, credo, secondo me. È normale, eh. Abbiamo cioè... illustri esempi, anche famosi, anche pubblici, di uomini che amano persone molto più giovani. Ma poi finisce a bordello. E chi sono gli uomini pubblici, scusa? Ah, Berlusconi, per esempio, sì, certo. Anche, ma mica solo lui. Ti ricordi di De Michelis? Era sempre circondato di bellissime donne giovanissime. Sì, però scusami, ma poi va a finire sempre a bordello, questo è il punto. Ma cioè... no, no, no, non è vero. Come è vero, no? Va a finire sempre a casino, litigi, sempre. Cose, perché poi alla ma fine... No, ma non è vero. Io ero monogamo e molto tranquillo con le ragazze, lo sono con i ragazzi, roba che dura da un anno in avanti. Ma secondo me non sei monogamo per niente, se incontri come qualcuno, no? Se incontri qualcuno tradisce alla grande, altro. No, no, se io sono innamorato proprio non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, eh? No. Succedeva con la mia ex moglie, con le ragazze, succede con i ragazzi. Ma la tua ex moglie che rapporto hai adesso con questa tua nuova, cioè... Ah, guarda, finisce che poi quando io lascio, perché può succedere, sì. O mi lasciano, i ragazzi sì. Continuano a vedersi con la mia ex moglie perché fanno amicizia e restano in contatto loro. Ma quali sono i mondi che ancora non hanno fatto coming out? Per esempio nel basket americano di recente c'è stata questa cosa grandissima, è stata una copertina di Sports Illustrated nel basket. Per esempio nel basket italiano nessuno lo fa. C'è stata anche una cosa stupenda nel pugilato americano-cubano, sì, c'è stata una bella copertina sulla Gazzetta dello Sport, ma guarda che su questo l'Italia è, come dire, terribilmente spaventata. E quindi... Ma nel basket c'è gente, secondo te, ci sono omosessuali? Ma non lo so, lì non ho avuto mai contatti, quindi non so. Non sei mai stato fidanzato con un cestista, no? Guarda, io di solito ti rispondo di sì per la gioia di Parenzo, ma semplicemente perché essendo un divulgatore scientifico conosco le leggi della statistica, uno su 10 sicuramente c'è, sempre. Però, in questo caso... In alcuni casi ce ne sono molti di più. Scusa, ma vogliamo commentare la Biancofiore? Allora, guarda, io sono molto in imbarazzo perché ero stato candidato a quel posto dal Partito Socialista, a cui non è stato dato poi quel nessun posto. Quale? Quel mio. Posto quale? Il sottosegretario, dici? Il sottosegretario delle pari opportunità. Cioè, dovevi farlo tu al posto della Biancofiore? Sì, sì, sì, soltanto che poi il Partito Socialista, non so perché, facendo pur parte della maggioranza... Vabbè, non contano un cazzo, non contano un cazzo. Nulla. Non è vero, però diciamo che almeno in questo caso così sembra. E non è neanche giusto perché, insomma... Nei paesi normali i partiti socialisti hanno un peso e come. Vabbè. E quindi sono imbarazzato perché sembra che c'è un fatto personale. Mi pare ovvio che lei è lì perché non sapevano dove metterla. Non ha nessuna esperienza nel settore, ha detto anche qualcosa di troppo perché pensano a destra che per avere i voti devono parlare male dei gay, e l'ha fatto anche lei come tanti altri. Ma io non credo che lei fosse convinta. Si usa così a destra, dovevano metterla da qualche parte e c'era libera quella casella. Cioè non c'è niente, non è niente di drammatico, tanto dici che questo governo non farà nulla per i non gay perché tanto nel programma non ci, ma non, non ci ma può non essere. Ha mai fatto nessun governo, e quindi voglio dire, ormai io sono abbastanza rilassato, mi sto organizzando. Sei rassegnato, dai, sei rassegnato. Sì, sì, sì, sì. Tanto c'hai sto nuovo fidanzato, ormai che te frega a te. Sì, no, ma tu considera, questo qua è brasiliano e in Brasile ci si può sposare, il precedente era portoghese, in Portogallo ci si può sposare. Ma quanti anni hai? Tu sei fissato quante con i lusitani, come mai? L'amore col fidanzato? 24. 24 anni, dai, sì, Alessandro, sì. Su, dai. Sì. Ma quanti anni hai tu? Ma scusami, io ne ho 50. 50, 24? No, vabbè, 50, 24. Ma 20... quante volte fai l'amore col fidanzato 24enne? Ma che ti frega a te, Parenzo? Ah, che ecco, ti... lui sembra che fa la solita scena. Parenzo, che ti frega? Più o meno la media di tutti, un paio di volte a settimana, che sarà mai? Un paio di volte a settimana, poi da un po' uno si stanca. Quindi non due, tre volte, non tre volte al giorno. Ma che tre volte al giorno? Ragazzi, ma voi avete, vedi, cioè, noi siamo assolutamente come gli etero. Quanti etero fanno l'amore tre volte al giorno? Nessuno. Parenzo ormai non fare più manco quello. No, ma Parenzo è molto carino perché pensa che noi abbiamo qualcosa di super, semplicemente la forza di sopportare un paese che ci ignora, ma per il resto voglio dire siamo normalissimi. Ma certo, ma sono rapporti normali come quelli tra uomo e donna, cioè, che c'è l'affetto, i tradimenti. No, però se lui è così giovane, 24enne, evidentemente c'è un testosterone. Sarà più focoso naturalmente. Alto. Sì. Sì, però fa il ballerino, per cui capisci che torna a casa la sera che è stanco morto. Ah, è per questo dici, eh? Comunque guarda che qualche volta più forte io. Qualche volta dal punto di vista sessuale sei più forte te. No, è fisico, nel senso che almeno fisicamente io mi stanco di meno di lui che fa il ballerino 8 ore al giorno. Certo, ballerino brasiliano, 24 anni, proprio lo scegli proprio, no? Perfetto. Scusami, con tutte... ma perché tu ti fustichi tutte le sere per soffrire, bisogna bravo nella vita, no? Io comunque, io ogni tanto sono un po' lui è fortunato perché lui, non dico purché respirino, però sostanzialmente non fa grande selezione all'ingresso. Ma che dici? Quindi... Ma non dire stupidi. Non credo, un bel ragazzo, fascinoso, ma perché dovrebbe ridursi così male? Ma figuriamoci, solo che a me MILF ogni tanto piace, devo dire la verità, Cioè mi piace la persona matura, che ha una certa età, eccetera. Non sono della scuola Cecchi Paone io. È la gioia del geriatrico, ti presento qualcuno se vuoi. No, qualcuno adesso, voglio dire. Cioè, no, qualcuno, qualche persona di età. Ah, gente qualche... fascinosissima. Ottimo, ottimo, ottimo. E tu invece in cambio dovessi andare in crisi con il mio ballerino brasiliano, mi presenti qualcuno di giovane. Va bene, facciamo così. Ti abbraccio, a presto. Ciao, ciao. Ciao, cari, ciao, ciao, ciao. Se volete vi traduco MILF, ma mi sembra che siamo su un pianeta un po' diverso. Tu lo sai? No, tu lo sai che cosa significa MILF, Parenzo? No, non lo ma so. Ma che devi sapere tu? Ma cosa sai? Cosa sai? Cosa io sai? Io so che sto comprando una torta con Manuela Ferri. Affa bubù, MILF, non sai? Mother, I like to fuck. E finiamo qui. Daniele da Milano. Daniele da Milano, buonasera. Dica. Buonasera, ciao Cruciani, come stai? Bene, tu? Tutto bene, volevo semplicemente dirti una cosa. Sei proprio un ruffiano di Gasparri. Perché? No, sei tappetino di Gasparri. Ma non mi sembra proprio. Fermo, e poi te lo volevo proprio dire. Dillo, bravo, dillo. Dillo. Perché volevo venirtelo a dirti persona perché lavoro lì in Monterosa. Sì, però sì. Però te lo dico per telefono. Dove lavori in Monterosa? Vieni davanti a me. Vieni davanti fianco, a me sotto in Monterosa. Vieni qua sotto. Dopo la attimo, poi volevo dire una cosa anche al tuo socio. Ma qua sotto, qua a fianco. Tu lavori all'ATM, non farmi pubblicità. Lavori all'ATM, buffone. Buffone sei te, ti stavo dicendo all'altro ruffiano che è lì a Roma. Sì. Devo dire, solo lui può dire che Vespa è un grande giornalista. Vabbè, quello ha fatto la slecchinata, dai. Un altro ruffiano del governo. Ma stavo scherzando, ma perché hai i tarli nella testa? Ma non ho i tarli, però. Ma dai, perché? Ma io non capisco i tarli, se la scuoti, li senti i tarli, li senti, se scuoti la testa, li senti. Cosa ti dico? Ma che fai, l'autista all'ATM? Che fai? Che fai, l'autista? Dov'è? Fai in Sicilia insieme a Gasparri? Vieni qua sotto, vieni qua sotto! Vieni da Maretto, Gasparri! Ciao, ti abbraccio, Daniele! Ti abbraccio, ciao, ciao, ciao. A lunedì 18:30, ciao! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24, la passione si sente.